percettibile quasi la voce, prima passaggio senti, però ti fa un rumore tipo una cosa così. Quando parli, senza portante non c'è niente, stranamente. Ma non è che c'è le batterie scariche, no? Ho messo batterie del cacchio, ho messo batterie quelle di Ocean, forse la batteria che non va. Vabbè, invece l'altro mic va meglio, se vuoi lo provo in fretta così mi dici. Sì, prova, come vuoi, non c'è problema. E il segnale c'è anche bassino, non capisco, ti ascoltavo più forte ultimamente. Tu arrivi al solito. Ma hai cambiato qualcosa, baracchino, antenna, posizione dell'antenna? Ragazzi, aspetta che controllo se è accordato. Allora, vediamo un po'. Forse si può migliorare. Non si muove l'ago. Strano, sei basso. Arrivavi oltre, ma adesso sei sotto. Attimo che metto l'altro, e dimmi da questo cosa cambia. Yeah. Eccomi qua. Questa è una batteria da 9. Batteria da 9 volt. Ed è esattamente un'Alan F10 che mi pare avevamo provato. C'è differenza? Lo sembra un pochettino più potente questo, un po' più forte. Adesso è a metà perché se lo alzo strappa, cioè fornisco lo stesso, o è l'apparato, sono i microfoni che non ce la fanno più, diciamo, dai. No, diciamo così, come modulazione va bene, discreta, dai. Aspetta, voglio vedere la tonalità, prova a parlare. Ecco qua, canale 10, canale 10, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, vediamo un po'. L'importante è la tipica sia passabile. Sì, a voglia, passabilissima, c'è da dire che il segnale purtroppo il segnale non è fortissimo, per cui ti porti a presto appena appena di QRM. La radio è quasi 5, chiara, comprensibile, però 5 pieno non te la do perché c'hai appena appena di disturbo. Tonalità sono leggermente cupe, però è chiara, niente da dire. Se riesci a fare qualcosa per migliorare il segnale va bene. Si è abbassata ancora di segnale, cioè di segnale radio. Ma come si fa? Basta. Ecco, si sa, va bene. Tanto non parlo lontano, se non sentire sotto campo. Guarda, si alzo il nesco. Ecco, non so se tu senta qualche innesco. Prima lo sentivo. No, innesco non c'è da parte mia niente. E com'è ancora più forte adesso, guarda, vicino e da 20 cm di distanza. Ma è un microfono da tavolo o palmare? Non ho capito. Palmare? Ah no, la mettiti vicino, per quello che perdi parecchio di coso, di come si chiama? Di intensità microfonica. Comunque è migliorata, adesso questa è un po' più forte. Ok, non credo che spingano molto, comunque. Per parlare sottovoce, ecco, per esempio, se io parlo così sottovoce, senza svegliare, diciamo, il cuore familiare, come va? Già, va bene. Cosa ti vuole? Ma non c'è un microfono da tavolo, tu? No, negativo. Non ti piacciono? Invece a me è esattamente il contrario. C'è quelli da palma che non li sopporto. E sai cos'è? Di solito io, spiegami. Siccome io praticamente sono sempre in macchina, sempre solo in macchina col baracchino, microfoni da tavolo, niente. Mi ricordo che negli anni 80, fine 80, sempre per il periodo massimo di attività, avevo l'MP35, però alla fine non mi diceva niente, capito? No, vabbè, l'MP35 è un microfono economico, niente da dire, però meglio di altri microfoni di pari prezzo sicuramente, non ce n'è, da quel prezzo lì non è che ne trovi più di tanto. Sicuramente vuole modificato, bisogna fare dei piccoli accorgimenti per farlo rendere meglio. Diciamo non sarà un tunnel, ma già si può andare, dai, meglio di andare con un microfono normale. Esatto. Sì, costava poco rispetto ai tarme. E quando trovi il tono giusto è già buono. Nicola, è con quello il controllo di segnale, con quello del baracchino? Sì, questo è un 548, sì, non so se te l'avevo detto o se te l'avevo detto l'FM500. Aspetta che abbasso qua, ricordati che questi sensori sono abbastanza relativi, vieni avanti. Quello che c'aveva in macchina l'altro giorno, quello lì è. Ecco qua, 9.5 il segnale, 9.5. Vabbè, comunque la radio è 5 piena, o non mi porta presso niente. La radio è buona, è sempre buona la radio tua. No, no, cos'era, non è mai, tu non hai l'antenna al 100% come prestazione, mi pare mi ha detto c'aveva un antennino dentro casa, così. Scappa, sempre l'antenna veicolare è attaccata a 1,60 m, è attaccata a una piastra di ferro di 50x50 per fare il minimo di riflessione, capito? Sì, ho capito, già va bene la situazione. Okay. No, volevo chiedere conferma se anche con quella situazione di antenna mi tiravi fuori bene, mi stai confermando, arrivo Santiago 9, per cui dovresti ascoltarmi anche come radio buona, radio 5. Ehi, a 9 più 5, mi stavo ascoltando, quando era? Ieri, mi pare, o l'altro ieri, c'era Antonio, stavate parlando di musica. Sì, Antonio... Vabbè, io sono appassionato di alta fedeltà, più che altro, la musica l'ascolto, non è che sia musicista. Antonio fa il tenore, credo che sia, o il baritono, forse baritono, e c'ha grossa competenza musicale, di musica classica, di cose, io proprio zero assoluto. E gli ho detto se conosceva questo personaggio che ha avuto modo di conoscere, che è famoso in tutto il mondo, pur essendo giovane. E ho detto, non lo conosceva, poi gli ho fatto entrare su internet, è una persona abbastanza... E io così, per sbaglio l'ho conosciuto perché ha acquistato un affare su Subito e ci siamo conosciuti. Alla fine ho scoperto che un grandissimo musicista di fama internazionale, uno dei massimi livelli mondiali. Cappa, ho capito. Io sono musicalmente una capra, io ascolto quello che mi suona bene alle orecchie e basta. Ah, non sei musicista, no, mi immaginavo che fossi, scusa lo sbadiglio, non so capizio, che fossi anche tu in ambito musicale. No, io musicista no, io ho detto, quello che suona bene all'orecchio, può essere Wagner, possono essere i Prodigy, possono essere Metallica, Dire Straits, quello che c'è ascolto, sono abbastanza di bocca larga, diciamo. Anche io sono così classica, poco niente, le ascolto, diciamo, non l'apprezzo più di tanto, non perché non mi piace, ma diciamo, non ho tempo per apprezzarle, qualche pezzettino così di quelli orecchiabili, ma non è che sia molto fanatico della classica, anche se devo dire che la musica vera è quella lì, tutto il resto è mondezza, quello che viene dopo, però in generale ascolto la musica rock, rock leggero, no, rock duro, non piace il rock duro, l'hard rock, cose così non mi piacciono. Mi piace la musica country rock, quella sì, e soprattutto la pop rock. Ok, guarda, se hai l'occasione, anche da YouTube, vai ad ascoltare il Napalm Death. Non so che genere fanno. Non lo so, allora dicono che sia grindcore, praticamente il rumore è andato puro. Voci sempre quelle tipo growling, in termini growling no, praticamente è come un ringhio più che un parlanco. No, ma cos'è, ti piace quel genere a te o se lo stai dicendo solo per capire che è una cagata? No, mi piaceva anche quello, non so perché, ma aveva degli assoli, degli accompagnanti di chitarra che mi, non so, mi piacevano, suonava bene per le mie orecchie, come ho detto prima. Ma no, guarda, io addirittura mi sono dovuto comprare, io sono fatti per alta fedeltà e ho dovuto acquistare un disco per avere un confronto di questo disco, di questo gruppo, adesso neanche mi ricordo, che assolutamente non mi piace, però era una registrazione di riferimento, talmente registrata bene, un CD di riferimento nelle riviste specializzate, adesso prendete questo CD che ci sono tutti gli strumenti, c'è il basso, la batteria, proprio ai massimi livelli di qualità di registrazione, però una cagata, l'ho preso solo per sentirmi e la musica, cioè quel genere musicale, col basso e con la batteria, e boh, col basso profondo, con lo strumento, cioè dove è nitido, abbastanza nitido, non sintetizzato col computer, fatto proprio strumentalmente, solo per quello, però non è il genere che piace a me, il rock duro. E che tipo di riproduttori hai? Di che marca, tipo, che ne so, Ableton o simile? Aspetta, scusa, ripeto, cosa adesso? Che tipo di apparecchi usi, Ableton o simile, per riprodurre? Ma per la musica, capa? Capa. No, vabbè, musica, che è una roba commerciale, stiamo parlando di roba un po' più sofisticata, dai. Sempre a livello normale, perché se saliamo ancora di categoria ci vogliono centinaia e centinaia di migliaia di euro per fare impianti del tipo di riferimento. Questo è un impianto normalissimo, però non sicuramente Kenwood, di apparecchi di categoria superiore. No, guarda, la Technics c'ho qualcosa, però Technics a livello commerciale era, sino a qualche anno fa, era il top degli apparati commerciali, degli apparecchi commerciali, cioè c'aveva dei grossi apparecchi, diciamo, importanti apparecchi, però stiamo parlando ancora più superiore qualità, cioè, a livello di casse. Io Technics c'ho diverse cose, c'ho un paio di piastre, equalizzatori, cosa c'ho, la Technics, neanche me lo ricordo più, e forse un paio di casse di monitor, piccoline, di quelle da monitor e basta. Ah, c'è i 1200, i giradischi della discoteca della Technics. Io mi ricordo, almeno nel mio piccolo, quel poco che conosco, aveva bella roba Mario Notari di Alemamento, vendeva questa roba un po' di alta fedeltà o quasi. Sì, no, anche quello c'è una bella roba, dipende da quanto volevi spendere. Di lì ho comprato la piastra della Technics e il sintonizzatore pure l'ho comprato dalla Technics, parliamo tantissimi anni fa, negli anni 80. Poi successivamente ho preso anche altre cose un pochettino più evolute, però di Technics, anzi, per non sbagliare, ne ho due di piastre Technics, una qua in stazione, quella che mi dà i riferimenti di coso, l'indicatore di livello, ti segnala i microfoni per uscita, ce l'ho abbinata a una piastra Technics, proprio fatto bene, e anche questa è una bella piastra, era un top gamma della Technics, sempre degli anni 90, la sto usando qua come riferimento. E, come si chiama? Come indicatore di riferimento. Ok. E poi parte la roba hi-fi, vendeva anche il Kenwood amatoriale, capito? Appena ne arrivava uno, spariva, se li compravano al volo, all'istante. Appena stavamo parlando di apparati trasmettenti. Che apparati HF Kenwood, di 430, 440, 140, 680. Qui praticamente non so se fosse l'unico a farceli a vendere. Appena gli arrivavano comprati. Non lo so, però l'ho sempre conosciuto per apparecchiature di coso, hi-fi, di alta frequenza, non so appena, vabbè. Ci si arrangia, dai, si vende un po' di tutto, dai. Kenwood all'epoca portavano un saccaccio di soldi, cioè da quando c'è internet, non dico che te li tirano a faccia, ma se li può comprare chiunque, a quasi al prezzo di un baracchino ti trovi un 440, un po' più di un baracchino come livello di costo, magari paghi 200 euro un baracchino, un 440 a 400 euro lo trovi discreto. Pensa che uno, un apparato a ruota da 250, e con 50 euro ti veniva un 430. Sì, lo so. Solo che io sono contrario, capito? Io non sono di un attore e per stare sul canale col Kenwood è sprecato. Se si era di un attore un altro corpo, ecco. Vabbè, ma c'è da dire una cosa, sono in circolazione tanti baracchini fuori legge, nel senso fuori potenza, eccetera, eccetera, fuori canali, e si spendono un sacco di soldi per fare modifiche, eccetera, eccetera, e vai sempre un baracchino. A quel punto, visto che sei fuori legge, tanto vai, ti compri un apparato più sofisticato, sicuramente inquina meno dell'altro a livello di armoniche e di spughe, e c'è un apparato che in ricezione si caga a qualunque baracchino. Venga, però pensavo in caso di controlli, di perquisizioni è più difficile da nascondere. Dappertutto naturalmente sono sempre discorsi che non veniva controllati. che devono venire a controllare? Non lo so, una spiata, che insomma, una di picca. Ah, io ti dico una cosa, Marco, se uno si comporta bene, non crea problemi, non fa lo scemo, penso che non abbiano nessun interesse a rompere le scatole. Se ti metti a rompere le scatole, anche con un baracchino di 5 watt, a dire parolacce, a parlare male di quello o dell'altro, e se in regola come baracchino vengono, ti possono dire qualcosa se riescono a identificarli. Sì, quello sì. Diciamo che queste sono le mie paranoie, capito? Tutto qui, non è roba che succede tutti i giorni, certo. Ma guarda, è talmente ristretto il discorso della CB, ho 4 gatti, non parliamo dei radiamaturi, sono sempre in fase di coso, di spopolamento, perché da quando è entrato il discorso di internet molte persone se ne vanno su internet, è più diretto, anche se la radio è un'altra cosa, però con Facebook e cose del genere, con le chat uno si fa ore e ore, ci passa intera. Io sto notando che in CB c'è stato un periodo che si stava un po' ripopolando, poi adesso c'è questa completa, poi c'è un altro periodo che è tra qualcuno, poi non si sente più per qualche settimana, eccetera eccetera, è tutto un ambiente strano. Anni fa, io vabbè, ci sono da poco, dal 2004, ma si dice negli anni 80, negli anni 90 non ti potevi spostare di canale, erano tutti pieni, uno sopra l'altro, si schiacciava uno con l'altro. Adesso ormai cosa vanno a controllarti, perché sta dicendo, parlando come stiamo parlando noi, di 4 fesserie, e che te ne sera, non fai male a nessuno. Ma prima anche usavano potenze fuori legge, apparecchiature super manomesse, eccetera, cioè, ormai in linea massima gli apparati nuovi sono abbastanza diciamo performanti e non hanno grossi problemi, ma prima attaccavano amplificatori lineari che come attaccavi oscuravano tutto l'isolato. Eia, quello è vero. Comunque anche con baracchini normali, io praticamente negli anni 85-86 avevo un 23 canali 5 watt americano, beh, disturbavo tutto il rione, tutto, sparivano le immagini in TV e sentivano la mia voce, non si spiega il perché di questa cosa, aveva 5 watt. Vabbè, bene a capire, ben tutto, se il baracchino era allineato perfettamente o se stava generando armoniche e spurie, prima cosa. Dopodiché deve avere la posizione dell'antenna, perché le grand plane nell'arco di vicinanze irradiano tante di quelle, un segnale, un campo elettromagnetico molto più forte per dire, di una mantova a parità di distanza, per dire nell'arco di 50 metri una grand plane rende molto di più di una mantova. In quel raggio lì ti dà dei segnali allucinanti, poi ti sposti di 100 metri e magari scompare. E c'è il discorso delle televisioni erano analogiche, che non erano come adesso digitali, che è molto più stretta la banda di trasmissione, e probabilmente prima i segnali siccome erano più deboli, quelli delle televisioni usavano amplificatori, antenne con cavi in perdita, tutti sbucciacchiati, per cui ti amplificavano anche i disturbi, la piccola armonica tua, tante cose. Sì, la Gran Plane quarto d'onda fa gli effetti che vuoi, perché praticamente c'è solo questo filo dritto e non c'è all'ingresso nessun circuito accordante o bobino, come lo vogliamo chiamare, quindi spara tutto quello che gli passa dentro, capito? E infatti dedica al TVI molto quella, la Gran Plane, e trovo lo schiaccio io, pensa che entrava addirittura nel cinema Ariston. Vabbè, ma cosa cacchio c'avevi? Non c'avevi il cavo in perdita, tu, solo che ti dico. Oh, guarda l'apparato, era terribile quell'apparato, oh, usciva bene, come non hai idea, chiarissimo, limpido, forte, però sparava un bel armone, apparecchio americano era, cosa ci vuoi fare? Non era omologato. Ma guarda, il discorso di omologato sino a un certo punto, perché se tu esci effettivamente con 5 watt, 5 watt non niente, la seconda armonica, credi anche se attenuata di 30 a 40 dB, sono pochissimi milliwatt. Il problema è bisogna avere le spurie, con il sistema lì anziché uscire solo su quella frequenza, uscivi su 2 o 3 canali vicini, e di lì la musica è tornando, ho sentito una scarica. Sembra il suono questo. No, mi è arrivato un picco di segnale, pac, come una scarica di fulmine. Ero io il fulmine. Tu eri? No, sto scherzando, vabbè. Ciao, buonasera a tutti. Ma è andato colpo importante già, per curiosità. No, negativo. Mi è arrivato una scarica, tum, ho detto, cacchio. No, non ciao anche a... Va, non mi viene. A Marco Condo. Ciao già, quella è la tua potenza, me, che li ha fatto salire, che li ha fatto salire la smitta. Ma è la mia potenza, solo sei Marco. Come già, ripeti che c'è la mamma. Ho detto a casa sì. Ehi, sempre a casa sono. Volevo uscire dal baracchino, ma piove, ci sono fulmini, è fermo. E non c'è niente soprattutto. Ma in questi giorni, come no, non c'è mai nessuno, quasi nessuno. C'è solo Gio Maria e cosa? Come si chiama? Non Giulio. Graziano. Solo che tutti gli altri morti, morti. E che vuoi che ti dica? Io entro ogni sera, non c'è mai nessuno, quindi chiudo e faccio altro. L'altro giorno stavo parlando già con Antonio Grobbe, eravamo là su, siamo stati un'ora parlando, non è entrato nessuno. Quando? Boh, forse avanti ieri. Poi è entrato Capri, Gianni Capri, che la sentivo solo io, stranamente non lo sentiva nessuno, a me arrivava no per qualche cosa. Nessuno lo sentiva, parlava solo con il passaggio, boh, che strano. E fatto passaggi lunghissimi, ma lunghi, infatti ho detto riduci un pochettino, perché ho detto se no parliamo io e tu e basta. Non lo sentiva né Antonio né Alessandro. Probabilmente tu perché sei più vicino, ma è strano perché c'è una mantova. È quello che mi meraviglia, niente, non l'ascoltavano neanche un peluzzino. Cioè, lui era più basso del normale, vabbè, lui arriva più forte, stavo facendo con la potenza dell'apparato. Però, cacchio, quello che mi meraviglia non lo so, ascoltavo Antonio. Antonio qua arriva a bomboletta, arrivano per 40, cioè lui c'ha la manta, ma anche ho la manta, ma non so scantina già. Non è sollevata, poi in terra, ma l'avrebbe dovuto ascoltare a bomboletta. Dice, non riuscivo a sentirlo. E non lo sentiva neanche Capri, la cosa strana. Posso capire Porto Torres. Infatti siamo stati prima parlando un po' con Antonio, poi è entrato Capri, l'ho fatto entrare, faceva passaggi lunghissimi, ha detto già, o fai passaggi più brevi perché sennò gli altri non parlano più. Antonio, infatti alla fine poi dopo un certo punto ho chiuso. Se ce l'aveva le apparecchie buone, le ha vendute, ma giù Maredo, si sentiva benissimo, ma non bene, benissimo. Già lo so, infatti io la gente non lo capisco, io sta venduto un sacco di roba e dice che poi vuole riprendere altro, sinceramente non ne ho idea, perché mi dispiace, è una persona che qua ci faceva un belle chiacchierate, ci aveva poi alla fine era riuscito a trovare una situazione di trasmissione ottimale, arrivava benissimo, poi ha avuto dei problemi e quindi non aveva voglia più di modulare né di niente, e si è venuto tutto. Però secondo me ha fatto male, doveva mettere da parte e poi come si riprendeva si usava di nuovo. E infatti non si buttano mai queste cose, cioè buttano, regalare, perché ho capito che le ha messo a regalare. E se si è venduto a 300 euro il 440, non è regalato. Non lo so, quella taglia era una bella vettolina, spingeva parecchio, magari non era nuovissimo come è stato d'uso, però come livello di trasmissione era eccellente. Allora, quello lì era un 440 che c'era finale a MOSFET, usciva con 200 watt. Lo so, spingeva parecchio. Cosa ti volevo dire? Sta vendendo, mi ha chiamato a proposito oggi, ci siamo sentiti che mi doveva dare la risposta per una cosa. Sta vendendo l'alimentatore, quello da 40 ampere della ZG, 100 euro, può essere un buon prezzo quello. Il trasformatore, quello è un bellissimo alimentatore. Chi lo sta vendendo? Capri. 100 euro? No, troppo al trasformatore, non è proprio a quei prezzi di quegli alimentatori. Già, è quello grosso, me. 40 ampere continue con l'alimentatore. Guarda che lo conosco, è quello che c'è a Natalino, figurati se non lo conosco. Lo conosco, costava così nuovo, mi pare. Beh no, già, lo lì costava 240 euro quell'alimentatore, tu mi dirai 100 euro non è poco, però sono convinto 80 euro te lo dà, e 80 euro si compra, cioè lo si può prendere benissimo, perché 80 euro ti pigli uno switching, però switching, qua stiamo parlando di un alimentatore con avvolgimento in rame, a trasformatore, che costa 10 volte tanto. Lo so, ma sono cose un po' obsolete adesso. C'è quello switching che con poco spazio ti fa la stessa cosa, va benissimo, io uso quello, cioè a 50 ampere va benissimo. col trasformatore classico. Gianni, non ritorniamo col solito discorso, non la finiamo più. Il trasformatore, quelli del trasformatore prima di tutto sono più robusti, risentono molto meno dei rientri radiofrequenza, tutti di sub eccetera eccetera. E poi non parliamo di corso, di come si chiama? La cosa più importante, tu mi dirai i pesanti, quelli altri sono più economici perché sono leggeri leggeri, con 2 kg ti danno 30 per il trasformatore, lì alimentatore, però in altri ranghi usano solo trasformatore e tra di fatto in altra realtà non ne usano sui cibi, per giocattolini cosa del genere li usano, per apparecchiature di certo livello usano solo il trasformatore, per cui motivo c'è. Poi tu mi dirai già, a te ti è più comodo, c'hai magari poco spazio, io sarei il primo a prendermelo, uno di quegli switching da 20 ampere che pesa mezzo chilo, te lo metti dietro, però non è la stessa cosa. La qualità di emissione, di coso, di pulizia di segnale un trasformatore, se è progettato bene, non c'è confronto col coso, con lo switching. Gli switching sono troppo risentono troppo per dire degli sbalzi, basta uno sbalzo di corrente, un fulmine vicino, non a casa tua, una scarica a 2 km, una scarichetta, pum, e ti sciogli tutto. Guarda, non è come dici tu, perché me la protezione contro sbalzi di energia elettrica, lo IOS blanker per i rumori di sottofondo che potrebbe avere, c'ha un sacco di cose, non è così come dici tu. Vabbè, tu sarai innamorato di quello perché sei un conservatore, ti piacciono le cose antiche, ti piacciono le cose, le innovazioni a me sinceramente piacciono. Se tu con lo stesso alimentatore, con un alimentatore a cosa che non abbia il trasformatore, tipo il switching, puoi fare la stessa cosa che puoi fare con un alimentatore che è 3 volte più grande. Io preferisco l'altro perché io ho gli spazi giusti per tutto quanto, capito? Però se dovessi mettere uno di quegli alimentatori ci vorrebbe un ripiano solo per quello. Infatti sto dicendo, è solo questione di spazio, però un alimentatore, ad esempio, un alimentatore switching è un alimentatore critico, cioè per evitare tutti i problemi di rientri radiofrequenza devono fare il circuitino apposito, per evitare gli sbalzi di corrente un altro circuitino, c'hanno tante di quelle cose collegate insieme, tu mi dirai è più efficace perché c'è una resa 10 volte superiore, perché a parità di peso 10 volte la porta è 1 a 10, ti do pienamente ragione, infatti tutti i televisori, tutti i computer, non si sognerebbe mai nessuno di mettere un trasformatore, parliamo televisori di questi LCD di nuova generazione, sarebbe un controsenso per questione, però come robustezza è tutto, non c'è confronto, se uno ha la possibilità di spendere soldi sicuramente non ti troverai mai male con un alimentatore a trasformatore, poi tutto quello che hai detto tu sono pienamente d'accordo, però non mi dire che è superiore qualitativamente, quello assolutamente, perché è una cosa critica, è nato già in partenza critico, loro sopperiscono a tutti gli eventuali problemi con dei circuiti di filtraggio, di schermatura eccetera eccetera, solo per quello, ci hai detto delle cose giuste, però in parte, quello trasformatore in assoluto è sempre di gran lunga superiore, l'unico difetto è l'ingombro e la resa, e buh, per tutto il resto non c'è confronto, parliamo di apparati costruiti a regola d'arte, non di giocattolini da dettagli, parliamo di apparati di un certo livello con condensatori elettrolitici di grandi capacità, trasformatori schermati eccetera eccetera, diodi di un certo pregio, transistor finali di certe cose, io sto parlando di cose di qualità, ci sono anche di lì le cagate, e anche i cinesi li fanno gli alimentatori trasformatori, le attacchi, al primo falso contatto ti si scioglie tutto. Allora, io c'ho anche quella trasformatore, non è che abbia solo gli switching, c'ho anche quella trasformatore. L'ho pagato 90 euro del 10 ampere, quindi immaginati se costava. Sai che cosa c'hanno di difetto quelli a trasformatore? Che quando le alette si staccano fanno un rumore di alternata, tutti questi rumori qua, invece quello switching di questi problemi non ne ha. Io quello switching ti dico che ce l'ho la bellezza di 12 anni, non mi ha mai dato problemi, il primo l'ho comprato, poi gli altri vabbè ce l'ho un po' di meno, però il primo l'ho comprato switching, ce l'ho 12 anni. montagne ci credo benissimo, conosco gente che ce l'ha da sempre, li ha sempre utilizzati, però tu stai autorizzando una cosa, adesso parlo in alta frequenza, non stiamo parlando né di televisori né di computer, di trasmissione, che costruisce, cioè non è nato per fare quel tipo di lavoro, cioè è stato adattato per utilizzarla anche in alta frequenza, e devo mettere i circuiti appositi, mentre con un trasformatore è come dire che io ho una macchina quattro ruote motrici, per essere per avere la quattro ruote motrici devo mettere questo sistema di iniezione, cosa del genere. C'è l'altra macchina, quattro ruote motrici che non ne ha bisogno, va direttamente, inserita direttamente, questo è il discorso elementare che sto facendo. Non è nato per l'alta frequenza, è stato adattato all'alta frequenza. Tu mi dirai, c'è dovuto 10 anni, può durare 20 anni, 30 anni, non si rompe mai, ci credo benissimo, però è un discorso diverso, in alta frequenza ci sono, soprattutto quando usi potenze, nel cavo, ti fanno rientri, ti disturbi, tu mi dirai non ti rompa perché non ha fatti metalliche, dico magnetiche, come può avere un trasformatore con tutto l'avvolgimento e coso, e la ferrita, cioè quei materiali di coso, della melle, non ce l'ha quella cosa lì, però c'ha altri difetti, molto più gravi. Io questo trasformatore che ho io, non per vantarlo, perché ne avevo anche un altro un po' meno potente, questo vento è un 60 ampere continui calcolato da 120, cioè questo può dichiarare, è dichiarato per 120 ampere e lo fanno lavorare a metà potenza. Tu tocchi i dissipatori, non esiste, cioè non scalda niente, e l'avanti te la si muove bene a bene. L'ho trovato l'occasione io, però è un alimentatore costruito da una ditta che costruisce solo alimentatori da sempre, fa alimentatori di laboratorio, l'accetto, credo che sia di Torino o di Milano, fa solo alimentatori, poi alimentatori ce ne sono tutte le qualità, ci sono switching che valgono abbastanza, altri che non valgono niente, altri che valgono tantissimo, bisogna vedere cosa compri e cosa ti dà. Vabbè, ma finché va. Paragone qualità-prezzo, io preferisco i switching perché costano poco, meno ingombranti e vanno bene lo stesso. Poi ci sono, diciamo, gli alimentatori che dici tu col trasformatore, sono, diciamo, più forti come alimentatori, come tutto quello che vuoi, però ingombrano un bel, e io anche per la storia dell'ingombro devo per forza opzionare per quelli, diciamo, della switching, perché sono più piccoli, più leggeri e me li giusto meglio. Dai, io praticamente c'ho un ripiano dove metto gli alimentatori, dove metto gli apparati con gli strumenti a fianco e il microfono, quindi sono tutti bellici separati di modo che non facciano rientri di radiofrequenza, non va bene, a me non mi hanno mai fatto problemi. Sì, tutto quello che facendo sono chiaramente d'accordo, già niente da dire, assolutamente. Il futuro è quello lì, è come il discorso transistore e valvole, sono due cose diverse, diciamo, hanno dei seguaci uno e seguaci l'altro, però in alta frequenza hanno dei limiti, sono limitati. Ok, finiamo qua il discorso, se no non siamo tanto da parlando. Avanti Marco, dici qualcosa tu. Sì, anche io preferirei, se possibile, quelli con il trasformatore, e che costano. Per esempio il 30 ampere ti costa una follia, devi prendere un mutuo, per me che sono, diciamo, in bolletta non va bene. Invece mi piacerebbe uno switching in casa per alimentare più cose. E volevo chiedere a Gianni, qual è l'ultimo switching che stai usando, il più moderno? Il più moderno è quello da 50 ampere. No, ce li ho tutti, guarda, sono tutti, diciamo, che li fanno ancora tutti quelli che ho io, però, diciamo, l'ultimo che ho comprato, tu stai dicendo, è quello da 50 ampere, che è quello lì, dico la verità, è partito in un modo strano. Praticamente tu lo accendi, si spegne, va in protezione, aspetti un po', poi lo riaccendi e tutta la sera rimane tranquillo, però all'inizio ti va sempre in protezione, quando c'è roba attaccata va in protezione. Mi interessava più che altro marca e modello, o almeno la marca. Aspetta che te lo dico. Sì, se... casino. Se dovessi avere un alimentatore, me ne sto già guardando uno, switching, mi piace perché ha uno strumento che può fare da wattometro, da amperometro, grande a vantaggio, è economico, costa 69 euro e vediamo, dai, ti faccio un pensierino, se questo non dovesse passare, il superstar che dici basta, ventina, se sei qui, prenderò quello. Allora, è marcato come Proxel 60-55-NFA. Ecco, io invece se dovessi prendere lo switching, prenderei il Proxel NFAR832, che ha quel bellissimo strumento grande grande a ventaglio. Che questo c'è da enormi gli strumenti, ti sto dicendo che 60-55-NFA ha gli strumenti enormi, grandi. Questo che ti dico io, che vorrei io, come tuoi, immagino, ha praticamente una manopola per eliminare i disturbi sul baracchino oppure sulla banda HF, capito? Se senti un ronzio, una cosa del genere, giri questa manopola e va, diciamo, a risuonare su altre frequenze il disturbo, capito? E ti rende libera la, diciamo, la ricezione. L'ho accennato poco fa, Noise Blanker si chiama. Ah, così si chiama? No, lì lo chiamano Noise Reductor, una cosa del genere. Ascolta, ma tu con 50 ampere cosa tutto ci attacchi? Ma io ho un alimentatore per un apparato, quindi non ci attacco tutto di nulla. Un apparato con un alimentatore, un altro apparato con un altro, un altro apparato con un altro. Non li sforzo, ma perché non lo voglio fare io? Perché se no ci potrei attaccare mille cose. Tipo lineari, lineari pericolari anche per attaccare. Sì, penso che sino a 100 ampere, anche 200, penso che sì, 200 di più. No, di più, di più. Allora, tu pensa che praticamente uno che conosce della RM va a 200 AM, 200 sì, vatta M, vale, 400 SSB ovviamente, e consuma 20 ampere. Tocca le balle. Provati da quello, cappa cappa. Sì, ma quello che ho io va molto bene, dico la verità, no? Tutti quelli che ho non mi hanno dato problemi, è uno solo, quello che uso col Midland, è obsoleto, lo uso, diciamo che l'avevo preso da Fusaro, 95 euro, costava 10 ampere, ed era bianco, era della Ital Elettronica, Italia Elettronica, non so, una cosa del genere. Era bianco, io l'ho preso il coperchio e l'ho verniciato di nero, perché tra l'altro da me lasciare questo colore juventino non mi piaceva. Ho capito, vai, riprendi, Roberto. Tocca a queste potenze che scrivono, mi state attenti, quelle sono potenze di picco, potenze massime, questi li state parlando di amplificatori, così mi sono distratto un attimo. La macchina 200 watt di picco naturalmente in AM, effettivi ne da 170-180, anche 160. Io ne ho pilotato 300, se tu te lo vuoi sapere. No, ma non quello che dico io. Io sto dicendo l'RM KL 400 si chiama. A vedere se ti piace quello che io. Proxel 60, com'era? Adesso non me la metto più, NF 60-55, così NF. E già lo trovo, dai, riprendete voi che vado al computer a vederlo nella stanza. Perché dicono un sacco di balle questi amplificatori, 800, 700 watt, 1 kW, poi guardi gli assorbimenti già e ti metti a ridere. Ricordati che la legge fisica, la legge della potenza, watt è sempre V per I, per cui tu devi capire 100 watt, 12 volt dall'alimentazione, quanti ampere assorbe? 8 ampere, e a 200 watt si fa un calcolo matematico, non c'è da sbagliare. Considerando che poi ci sono i rendimenti degli apparati, ma stiamo parlando teoricamente, poi il rendimento è molto ma molto inferiore, per cui ci dicono 20 ampere con 200 di potenza, vedete un bocco. Fatti conto, un 440 con 100 watt appena potente assorbe 20 ampere e sta uscendo con 100 watt e poi capisci tutto il discorso già. Sì, sì, lo so, lo so perché è così. No, diciamo che questa alimentazione da 50 ampere che ho non l'ho mai vista andare fondo scala, mai, assolutamente, vabbè, uso potente ridotte, non uso potente grosse. Sì, ma poi i lineari, quelli di una certa potenza, parliamo di quelli valvolari, perché dopo una certa potenza i transistor si cagano sotto, parliamo di amplificatori lineari, stiamo parlando, normalmente ci hanno alimentato dentro contenuto ai valvolari, quelli a transistor sono ben pochi che tirano potenze elevate, io ne conosco uno solo, due o tre marche dai, che tirano potenze esagerate oltre i 500 watt a transistor, sono pochissimi, proprio pochi, però c'hanno assorbimenti di un certo livello. C'è anche della ZG che da 1200 watt. Vabbè, loro dicono 1200 watt, ma stai parlando per in banda laterale, tu parli naturalmente, al valvolare però. No, trasistorizzato. In banda laterale, sì, 600 mA e 1200 in banda laterale. Ma quello veicolare stai parlando? No, è la stazione base. Un bel apparecchio, il BV2001. Sì, ho capito. Vabbè, sono sempre potenze massime, comunque stiamo parlando. Perché quello che loro danno 1200 watt per auto, quello lì è diventato a 28 volt, lo sai, perché se lo fai funzionare a 12 volt in 30 secondi ti butta a terra la batteria. Vabbè. Queste robe sono uscito a lavorare, adesso vado a farmi un giro a San Gavino, che c'era la festa. Ecco tu in barriata leva, me ne sono dovuto scappare. Guarda già, io proprio stasera sono entrato da poco, un'oretta, avevamo la prima zona del torneo nostro dei bambini, che inizia a novembre e finisce a maggio, proprio oggi che devono andare a fare, e c'erano le previsioni, davano alle 5 acqua, non forte, mamma mia, che è tutto rovinato, perché tutto all'aperto, di lì un casotto, abbiamo tutto predisposto, con i nylon, il gazebo, tutto quanto cercando di tamponare, vedi questo in un volone brutto, mamma, siamo riusciti a finire in tempo, poi a Risetti, ogni balzina da leva, in tempo abbiamo fatto, infatti quando ce ne stavamo andando, pulendo tutto quanto, meno male, se avessimo tardato di un pochettino, per dire 2 ore, avremmo preso tutta l'acqua, una cosa allucinante. Meno male non ha piovuto, ci ha salvato. Comunque domani è buono, non è una bella giornata, però è coperta qualche nuvoletta, dai, però la temperatura è piacevole. Anche per questi che stavano sperando in una boccata di aria, con la vendita, sono un po' delusi, dice anche l'anno scorso che hanno fatto così, almeno quest'anno, capo, che si riempia un po' di gente e vendono qualche cosa, perché anche i negozi approfittano per vendere per turisti eccetera in queste occasioni qua. Ma la procedura non sono neanche intelligente, senza parlare male del porto turistico, però dico, cazzo, l'hai sempre fatta l'ultima settimana di maggio, o normalmente si faceva l'ultima settimana di maggio, cazzo, mica l'ha fatta in contemporanea con la cavalcata. Ci guadagnano, non capisco cosa ci guadagna, perché parte dalla gente, cioè soprattutto questi che hanno le bancarelle, normalmente facevano il 18 per dire la cavalcata, la settimana dopo a San Gabriele, invece passo tutti divisi, è una gaggarda. Infatti lavoravano metà del lavoro, perché facevano 2 settimane di pieno ritmo, perché era il tocco per loro fare quelle feste. Io non ho capito per quale motivo, forse per invidia, per gelosia, non riesco a capirlo. No, perché loro si basano sulla Pentecoste, non sul giorno, Roberto. Sì, lo so, tu vuoi dire scusato già, lo so benissimo, però siccome hanno spostato tante volte, io l'ho vista che certe volte l'hanno fatta ai primi di giugno, è capitato di mettiti d'accordo, perché ormai questa festa sta diventando una festa solo per divertimento, la festa religiosa ormai non c'entra più, perché molte volte si faceva la discesa, ti ricordi, a piedi, si andava, cadeva proprio come sta dicendo in Pentecoste, e poi la facevano dopo 2 settimane la festa manna, chiamiamola festa manna, così a Sassari, ma io posso dire la stessa cosa per Sassari, per dire, sai che c'è San Gavino il 18, mettiti d'accordo, la cavalcata la fai il 25, la settimana dopo, non penso che succeda niente, o muore qualcuno, invece buh, sembra che lo facciano per invidia uno con l'altro. Ma è colpa di Gianni sicuramente. Hai io ci scendiamo a cosa, a Porto o ma quando? Domani? Stanotte. E cosa c'è stanotte? Bancarelle, festa, giostra, di tutto. Io devo andare domani perché io accompagno mamma, no? Che da sola non va. E quindi mi tocca domani. Ah, vabbè, di roba. Ecco. Sì, avanti breve. Ciao Roberto, buonasera Gianni, imperatore c'è da quella parte che è pensata. Ciao Alessandro, mi hai sentito, ti rilascio. Ciao Gianni e poi a Marco. Ciao, mi hai sentito, ciao a te. Ehi a Cappa, buonasera circolare. Altro che festa, sta diluviando. Oh, salutatemelo, che mi arriva a Santiago 3 nel QRM, da. L'hai sentito Alessandro a Marco? Ti saluta perché dice che si arriva molto basso. No, da parte mia è negativo. Da parte mia è negativo, non riesco a tirarlo fuori. C'è una radio allucinante, fortissima, considerando che sei a Porto Torres, sembri qua vicino, tu sa. Ehi capa, dai. Ehi vabbè, è un piccolo trattorino. Sta pompando, è un grido. No, non sto parlando di segnale già, è radio fortissima, forte forte proprio. Sì, è una bella radio, ma anche diciamo quando tu li dai flatte, la radio si potenzia. Sì, no, ma già, io ti faccio dei segnali anche a Santiago 9, 9 e 20, però non riescono mai a salire a questo limite, io ho dei riferimenti qua, a questo limite del picco rosso, lui ci arriva piano piano, per dire, considerando quello che puoi avere tu, lui sta arrivando un peluzzino più forte di te. Gianni, lo sai qual è questo? Il trattore, quello che hai spedito fuori, ti è arrivato di nuovo. Ehi capa, dai. Ehi, è tornato indietro, dai. L'hanno un attimino messo sotto torchio, ho fatto qualche modifica. Cava capa, ma il microfono è suo, stai usando? Il suo palmare. Ma scusa, beh, senza modifica non va bene quell'apparecchio di vero. No, beh, diciamo che non è che non va di bene, soltanto che c'erano piccoli accorgimenti riguardo il dissipatore. La fredda va bene? No, diciamo che si sono persi sul discorso del dissipatore molto ridotto e quindi adesso diciamo l'hanno un attimino potenziato, diciamo, dai. E adesso va bene, non scalda più. No, adesso l'ho provato, tranquillo beato, diciamo, dai. Cavagava, e va bene, sì, bella parita. Ciao, dai, la modulazione com'è? Considera che adesso sto andando con la versione doppio modulatore. Va molto bene. Molto forte, sembra un amplificato. Ok, dai, avanti Roberto. Hai detto andando già nel sebiliano nuovo Saturnetto di Viru già. Sì, pensandoci sto, vabbè, pensandoci sto, mi piace molto. Se trovo qualche ditta che lo prende in Italia, già me lo prendo fuori, non mi fido. Ma se per dire la tecnocomunicazione lo prende, lo sto subito comprando. Gianni, dimmi, guarda che ce l'ha Negrini, 200 euro. Ma allora non è quello che dico io, quello da base. Saturneco da base. Non è Alessa. Alessa è nuovo. In che senso nuovo? Hanno fatto il nuovo Saturneco. Hanno fatto il nuovo Saturneco da base. No, questo mi sembra. Almeno non l'ho visto. visto ancora il nuovo modello, ma io ti parlo, l'ho visto quando è un paio di giorni fa, stavo così curiosando e ho visto che c'è questo Saturn Echo in vendita a 200 euro con 6 mesi di garanzia. Usato. Alessa? Quello costa 8600. Alessa, quello che stiamo parlando noi si chiama Galaxy DX2547, è un apparato nuovo, ancora, mi se te lo cerchi su internet, non c'ha niente a che vedere con i vecchi Saturn Echo. Ma aspetta Roberto, ma non è prodotto in Italia? No, roba americana, l'ho visto, c'è la recensione in America, l'hanno fatto in un apparato completo, sulla rivista CB Radio Magazine, una rivista americana, che ci sono tutte le prove di tutti gli ultimi apparati. Io pensavo non ne facessero più apparati di nuova generazione base, baracchini, se lo vedi questo è spettacolare, c'ha tutto il possibile immaginabile, però economicamente è distribuito nel migliore dei modi, proprio facile da usare, c'è tutti i difetti che aveva per il Saturn Echo di potenziometri contro, e come si chiama, trattini e contratrattini, li hanno eliminati. L'hanno reso più fruibile, più facile da usare, e poi c'è un sistema di ricezione, come si chiama, puoi modificare anche la trasmissione direttamente dall'apparato, come puoi utilizzare un controllo di tone direttamente dall'apparato, c'è un filtro, un sistema di filtri prioritario, cioè fatto proprietario, fatto da loro, è una bella apparato. Infatti non è produzione italiana, produzione americana, sì, anch'io ho visto qualcosa, però un sito americano di produzione e così via, e addirittura ho visto anche Ranger, la base, poi ho visto molti altri apparati belli veramente, simile al Saturn Echo, però completamente diciamo più avanzati e più con qualche diciamo al di fuori della vecchia generazione del Galaxy. Allora, questa rivista è bellissima perché è aggiornata, qua in Italia non abbiamo circuito elettronica, però di queste cose, vabbè, io lo leggo raramente, però non è tipo una rivista specializzata come può essere Stereo Plexone, dove facevano avere le prove di tutti gli apparati, te li dicevano pregi e difetti, questa è una rivista internazionale, c'è anche su internet, e ci sono apparati mai visti, cose fuori dal mondo, c'è questo Ranger, adesso io me ne sono segnati i modelli perché per ricordarmeli riguardarmeli con calma, questo Ranger RHF618, tira 100 watt effettivi, se tu vedi quell'apparato ti metti le mani in testa. C'è quest'altro Ranger con il display touch screen, cioè c'ha proprio un tipo un telefonino touch screen, non ha tatti, non ha niente, e lavora il touch screen, ti fa la videata che vuoi tu, ti vuoi far vedere per dire lo Smith, schiacci e ti apre la frequenza e ti apre la frequenza, oppure entrambe le cose, e il rosmetro, il modulometro, c'ha tutto, non so quante funzioni c'ha questo display a colori, come che c'è un televisorino al posto dei tasti, tutto touch screen, una cosa da vedere. Sì, ho capito di che cosa stai parlando, ho già visto, però un casotto perché succede questo, determinati componenti diciamo di quegli apparati è un gran casotto, perché adesso i finali, e adesso io parlo di questi finali di questo apparato qua, che questo è prodotto in America, poi diciamo distribuito in Italia, i finali diciamo di questo apparato, diciamo che dopo l'ordine ha dovuto aspettare due mesi, diciamo che è un casotto per se succede qualcosa nell'assistenza per i pezzi. Vabbè, come tutte le cose, spera che non ti succeda mai niente. Lo so, sempre sperando che non succeda niente. No, ho visto, ci sono dei belli apparati da base, addirittura ho visto anche il Cornes da base, addirittura c'ha tre strumenti, modulometro, poi c'ha il classico strumento che usiamo noi diciamo per il segnale e quant'altro, poi lo strumento per la misurazione del rosso, insomma, belli veramente, tutto lì. Avanti già. Va bene. Scusate, ha chiamato Marco, avanti Marco. Ascolta, ma non ho capito bene il modello, io ho trovato 2547. Sì, Galaxy DX, domodossola X 2547. Sì, già quello. Sembra un HS. Sì, sì, è per quello che è bello. Però non lo è. Ma poi non lo potevano fare grigio, grigio scuro o nero, invece di questa specie di bianchiccio grigio chiaro. E vabbè, i colori ognuno ci ha gusti su, sicuramente anche nero sarebbe stato più bello. Io ho visto il Superstar, mi sembra che sia 7009, che sembra un 440, bellissimo, grigio display, artistali lì. Diciamo, ci sono, esteticamente c'è di meglio, però è sempre un bel apparato, un bel barattino. Caspita, ha uno smitter che è un bijou. Già lo so, vai già. C'è uscire in Italia, dammi il primo. Criticalo, tu criticalo. Io se esce me lo piglio. No, io non l'ho criticato, però il colore potevano farlo più scuro. Perché a me non piaceva un alimentatore, era bianco e me l'ho fatto nero. Che problema c'è? Basta saper verdecciare. Ah beh, però lì è più delicata la cosa. Ah, che è più delicata? Se no lo butta Roberto, ti prende 50 euro e te lo fa. Oh. Questa roba, pubblicità ti sto facendo. Aspetta un attimino. Oh, Roberto. Dimmi. Allora, una piccola curiosità, visto che Gianni adesso ha detto, mi ha fatto ricordare, diciamo, il tuo tabacco. Allora, hai presente la punta? La punta, lo sportellone, diciamo, lo sportellone, lì al retro. Hai presente dove aggancia lo sportellone? Quel fascione proprio dove aggancia le cerniere del fascione. Più o meno, cosa ci vorrà qua? Appunto, secondo te se mi stai parlando tu? Allora, esattamente l'appunto, il 1003 multijet. Diciamo, quindi non è la prima serie, quelle, diciamo, quelle da 2000 in poi. Cioè, il multijet dovrebbe essere uscita minimo dal 2004. Sì, della 2007, per esattezza. Avevate caduto roba sopra, l'ha portata alla maggio, ti ha bruciato il trasparente, cosa è successo? No, lo perdono perché stava uscendo, dentro c'era del mastice, però stava buttando fuori della ruggine. Allora ho detto, vabbè, la porto a farla così, ho detto, no, caso, cioè, non vorrei che poi col tempo magari si formasse il buco e tutto quanto. Secondo te la spesa quale potrebbe essere? Beh, il lavoro di per sé non è niente di importante, cioè, stiamo parlando della parte superiore del portellone sopra il cristallo, diciamo, con la striscia, col montante lì. Più che altro lì devi prendere la vernice, ormai chi costa il materiale di vernice? Le vernici costano un sacco di soldi, pensa a mezzo chilo di vernice te lo fanno pagare 60 euro minimo, se prendi roba di qualità, piccola, trasparente e tutto. Ma accendolo ti potrebbero chiedere anche un centinaio di euro, 120 euro, non lo so. Beh, capa, perché insomma, ma cioè a vista non è che sia tutto questo grande lavoro, almeno ignoranza, diciamo, in materia da parte mia, diciamo cosa, me l'ho preso 240 euro. Non lo so, sinceramente avrei voluto vedere il lavoro, ma perché solo quella pista di sopra? Sì, sopra il fascione, è presente dove ci sono le due cerniere, dove aggancia lo sportellone, ecco, quel piccolo fascione, quanto sarà? 5 centimetri, 5 centimetri di fascione. Sì, no, 240 euro mi sembra un po' esagerato, sicuramente io non prenderei una cifra del genere. Naturalmente c'è da verificare tante cose, perché se poi il portellone l'ha dovuto smontare, io sto parlando verniciandolo esternamente, se poi c'era ruggine all'interno dove attaccano le cerniere, magari era piegato qualcosa, io non l'ho visto, la macchina non posso giudicare. Come si chiama? Per cui io il lavoro degli altri lo rispetto sempre. Però verifica naturalmente, chiedi che tipo di lavoro ti ha fatto. Un portellone intero normalmente si spende quella cifra lì, però non pensare a fare un pezzo di 10 cm quadri rispetto a fare uno di 50 metri quadri, cambi più di tanto il prezzo, più che altro ti ripeto il materiale che fa costo e poi magari lo attacco di attacco dei particolari, la preparazione eccetera eccetera. Sì, a prescindere diciamo dal costo dei materiali, pienamente d'accordo con te, però allora la manodopera è se stessa, smontare lo sportellone che sono 4 viti, ok? Togli via lo sportellone e poi rimangono, diciamo, l'aggancio delle cerniere dello sportellone. E poi logicamente cosa devi fare? Devi intervenire su su questo punto, che poi non era un punto, diciamo, era quasi al centro proprio della base dove c'è questo canale dello sportellone della carrozzeria, a sportarlo via, poi logicamente fare il suo trattamento e riverniciarlo. L'hanno fatto in concessionario? No, diciamo un carrozziere, un operatore. Non lo so, ma tu non te l'ho fatto il preventivo prima di farlo, non conviene sempre farsi fare un preventivo? Ma logicamente il discorso suo è stato che dice devo togliere un attimino la vernice e vedere un attimino se sotto la vernice altro, capito? Vabbè, ma diciamo il discorso di, a meno che non sia bucato la ruggine, ma il portellone appunto è trinciato, per cui non ha neanche problemi, la ruggine la potete avere la patente e non avete attaccato le cerniere un pochettino, a meno che non hai fermato lo sportellone, io non lo so, molte volte uno dice non c'aveva niente il portellone e poi controlli dentro, è aperto, ma ti è partito un ammortizzatore del portellone, quelli telescopici, quelli del coso, dell'apertura magari ha deformato il portellone, quello ha dovuto aprirlo per addestrare, io non lo so, se mi parli solo di verniciatura del petto, 240 euro non è poco. Ehi capa, infatti anche per me è sembrato un po' eccessivo. Vabbè, comunque, fatto, non si ci pensa più. Ok, dovete scusarmi, ma vi devo abbandonare perché mi hanno chiamato per far carica. Se coincide più tardi sono le prossime. Ciao Roberto, ciao Gianni, alle prossime. Ehi, ciao. Ho visto che ci sono le palline al chiosco. Cappa, e tu lo sai che io consegno sempre lì. Ah, è vero, sì. Ehi, abbiamo piazzato qualcosina lì, ma secondo questo tempo già è un casotto. Va bene. Lo so. Troppo un anno sta succedendo così adesso. Vabbè dai, buona serata, sa, se esci, buona serata. Io resto a casa, là. Purtroppo. Sta facendo anche molto tempo, non è che venisse americano. Marco, Condor. Ehi, cazza, salute l'amico, se ne va, tanto non mi sei. Ho visto l'alimentatore tuo, sì, è bello, bello alto, grande, con due strumenti. A me piaceva invece la serie NFAR, cioè il tuo è NFA. A me piaceva NFAR, ha un solo strumento, però sono bassi, sono piatti, capito? No, non mi piacciono così. Mi piacciono grandi per fare stazione, ma io tutto il concetto, anche gli alimentatori senza strumenti non mi piacciono. No, non è senza, uno ne ha. E puoi selezionare o volt oppure ampere. Però sento che mi piacciono quello, a 30 ampere, perché costa poco, costa 69 euro. Un consiglio d'amico, se devi prendere un alimentatore pilare con gli strumenti, sia voltmetro che amperometro, e sei molto più sicuro. Per qualunque problema, qualunque cosa, dubbio di trasmissione, magari se non sei sicuro che sta uscendo bene l'apparato, prima di tutto ti guardi il voltmetro se sta indicando la tensione giusta e l'amperometro se sta assorbendo. Sono degli indicatori importantissimi. Addirittura io in questo apparato ce li ho, sia il voltmetro che gli amperometri belli grossi, però ci ho abbinato un multimetro digitale molto più preciso a doppia virgola digitale per avere proprio capire se sto sempre andando bene, perché molte volte, siccome è talmente sensibile il regolatore della tensione, molte volte, adesso l'ho messo in un angolo, non si può toccare, ma molte volte andava la bambina, toccava, me lo sforzava appena per dire da 13 salivi a 15 volte. Un giorno allora me ne sono accorto, per quello ci ho abbinato questo multimetro da laboratorio digitale, mi dice la tensione è a secondo decimale, così sono sicuro che almeno non c'ho dubbi, e ce l'ho quello in vista davanti, tipo un frequenzimetro. Ok, quello là, quello che mi interessava, volendo ha la possibilità di escludere anche la regolazione di volto e metterlo fisso a 13,8, ecco che mi piace, vabbè bambini qua non ce n'è, quindi non c'è problema. Ok, ascolta, volevo dire a Gianni, ti ricordi l'altra volta che stavamo modulando, che ero in via di Santa Maria? Via Coppa Mezza, un 71. Avevo il nuovo superstar, e praticamente segnava basso. Ho scoperto che andava a caratto lo Smitzer, era molto tirchio, allora l'ha aperto e l'ha alzato appena appena, adesso sembra un pochino più fedele. L'ha fatta lei? No, io l'ho fatto. Fin lì ci arrivo. E in base a che cosa l'ha regolato? Come l'ha fatta la regolazione dello Smith? Allora, nel Superstar 2009, classico, si deve toccare il trimmer VR1. VR1 e VR2 sono affiancati. VR1 è per la Smitzer in AMFM, il VR2 è per lo Smitzer in banda laterale. L'ho aumentato di poco, poco lo devi aumentare. E ho fatto l'ho fatto uguale all'FM500S, che nonostante tutto è più fedele degli altri come Smitzer. Cioè l'FM500S? FM500S, invece questo che sto usando è il 548 6. Bello, l'FM500S io l'ho avuto, me l'hanno rubato dalla macchina, bello apparecchio, anche se avevo 34 canali l'avevo fatto diventare oltre. Eia, il mio me l'aveva fatto, me l'aveva sostituito gratis a sua spese Marino 2, perché qualcuno i suoi dipendenti, scusate il mio. È vero? Sì. Qualcuno che magari sta ascoltando mi aveva bruciato il mio e Mario M2, vedendo che non si poteva riparare, me l'ha sostituito di tasca sua, capito? Nuovo, me l'ha dato dalla vetrina. E non ne fanno più dipenditori così. Sono rientrato io. Oh yeah. Mario M2 era professionale, non veniva. Cosa? Che venditore come Mario M2 non ce n'è. Mario M2? Sì, Mario Attari entrava con nome di Mario M2. Ah, stavo pensando ad altre cose, stavo pensando ad altre, sì, nel campo suo era molto molto scrupoloso, anche molto preparato. Ogni tanto magari negli ultimi tempi non ne aveva più voglia, comunque, di riparare, comunque. L'ho visto di sfuggita tempo fa, non so neanche cosa stia più facendo. Oh, impianti di qualche tipo, credo. Purtroppo, da quando sono entrato nei negozi di distribuzione, le hanno spezzato le gambe a questi negozi di cose. Io non so come fa a sopravvivere quello Sinfonico, lo stesso amico. E sono andato da poco, mio fratello, le ho fatto comprare cose a mio fratello, ha speso anche un po' di soldini di lì. Però, certo, quello sono proprio cose specialistiche, però costano un bel di denaro. Ti vende per un amplificatore al mese. Però tu lo vedi tutto il giorno di lì fermo, è un lavoro un bel maledetto, qua stasera c'è una fame su quel campo. Tutto in crisi, Ma quel settore è più di tutto, adesso vai da Media World e ti tirano la faccia i corso, anche gli amplificatori ti vendono, ho visto dei prezzi, magari non c'ha le stesse caratteristiche di quelli che vende Sinfonia di alto rango, però uno dice il 90% del mercato è commerciale, perché uno quando vede una bella cassa, un bel amplificatore, cattami 300 watt, c'ha questo, costa 200 euro, piglia il cupareggio, magari non c'ha confronto con quell'altro che costa per dire 1000 euro, sono due suoni completamente diversi, la gente sente potenza, ma c'è 300 watt, però non ne ho più nulla, se magari sono 300 watt di distorsione, quando sento la potenza non si rendono conto che avere potenza non significa avere qualità di coso, di volto. Vabbè. Come già? Ma ci sono anche le marche conosciute che costano poco adesso. Adesso l'Alpine, l'avevo comprato anni addietro, l'ho passato in tre macchine, addirittura avevo l'MP3, il mio, quando stavano appena uscendo, quindi era un'innovazione, l'avevo pagato esattamente 960.000 lire. Adesso vai e ti ricordi nella faccia gli Alpine, che sono dei migliori stereo che ci sono. Sì, hai detto bene già, te li puoi dire la faccia, perché le casse GBL, te li puoi dire tu, adesso ti danno dei woofer enormi dentro la cassa già pronta con l'amplificatore, ho visto i blizzi, 150-160 euro, woofer da 800 watt, 400 watt RMS, cioè potenze fuori dal mondo. Gli Alpine col televisore incorporato, DVD eccetera eccetera, a 400 euro il topo di gamma ti compri, e tu prima con l'Alpine anche dovevi spendere minimo 1 milione per avere uno discreto senza salire al top. Supero Grisciu. Certo. Comunque comunque vabbè, io lo dico la verità, la marca vuol dire tante volte, io questo stereo qua l'ho cambiato in 3 macchine, sempre lo stesso stereo, è sempre funzionante bene, funziona sempre, già lo sai, e te l'ho fatto sentire mi aspetto. Ma non fai niente da dire, tanto il capello è un ottimo apparecchio ai massimi livelli, non ce ne sono molte di marche che fanno apparati di quel livello, appare soprattutto da famoso, non da, diciamo, nel commerciale, in cose un po' più professionali con le piazze di registrazione, un marchio prestigioso giapponese, solo che a volte tu vai in Cina, cioè qualunque cosa, sono calati i prezzi in modo esponenziale, se dovessero diminuire le macchine come sono cadute i prezzi dall'alta fedeltà e delle televisioni, ma tu ti ricordi un televisore al plasma quanto costava, un 32 pollici, il piccolino diciamo, che adesso te lo tirano a faccia a 190 euro, lo trovi un televisore a 32 pollici HD eccetera eccetera, adesso prima li pagavi 1,5 milioni, 2 milioni, un minimo più scaccino, poi se salivi in alto rango di marche famose, Sony o cose del genere, non ne va bene, adesso ti ricordi la faccia, cioè un 55 pollici io l'ho visto a 600 euro, 599 euro, un 55 pollici 3D di tecnologia LED eccetera eccetera, cioè se li tirano la faccia. Purtroppo la stessa cosa non è successa negli HF, se no tutti ci avremmo avuto l'HF già, e ci avremmo preso il TS, l'ultimo, il IC7008 a 150 euro, considerando il rapporto di prezzo che c'è stato tra un televisore LCD e un HF. Quindi tengono sempre gli stessi prezzi, addirittura anche quando li prendi a seconda mano il valore non abbassa, tu lo sai benissimo, hanno sempre lo stesso valore, non perdono di valuta, ecco, è come la casa, aumenta ma non perde. Sì, ma lo sai cos'è? La domanda fa il prezzo. Più c'è domanda e più si abbassa il prezzo, perché c'è la concorrenza. Purtroppo nel campo dell'HF il discorso è quello, c'è un coso d'elite, un pubblico, una domanda d'elite, per cui se ci sono in tutto il mondo, diciamo un milione, forse sono troppi radioamatori, diciamo 500.000 radioamatori nel mondo, rispetto a quelli che hanno il televisore, che sono 500 milioni, il rapporto è quello lì. Si mettono d'accordo, ci sono diverse case che le costruiscono, quindi noi lo facciamo Icom, Yaesu e Kenwood, sono i marchi prestigiosi, più conosciuti, poi ce ne sono anche altri, saranno 10 i marchi in tutto il mondo che producono, mentre nel televisore ce ne saranno minimo 500 i marchi che producono i televisori. Io ho comprato da poco un 46 pollici 3D HD e bimbumba. €999. Sì, già lo so, adesso quelli li trovi anche meno, già. Ti stanno andando, per dire, quello che l'anno scorso pagavi 1.000, adesso lo paghi 600. L'anno dopo ancora lo stesso televisore lo costa 400. Io ho visto i 37 pollici a 200-225 euro, prezzi 37 pollici non è piccolino, diciamo. Non te lo metti in camera dei bambini un televisore del genere, per dire. Stanno scendendo tantissimo di prezzo. Prima quando c'avevi un 37 pollici LCD, c'era il televisore grande, perché tu sei iniziato dal 25, 28, i primi televisori, parlo 7-8 anni fa. Adesso minimo, il taglio minimo sono 42 pollici, se no non ne compra nessuno. Magari però sono un gadget di più le cose. Hai detto bene, quando si rompe ce lo butti, infatti la crisi profonda ci hanno questi riparatori di questi apparati qua, a parte che non si possono riparare gli LCD una volta che fai danno sul cinescopio, sul pannello, ce li butti via, non c'è nessuno che te li possa riparare, non esiste modo di ripararli, perché te li sostituiscono direttamente in garanzia perché non si possono riparare. E basta, poi al limite ti possono usare qualcosa di alimentazione, qualche componentistica di alimentazione, ma sono casi più rari. Quando si rompe, pide se lo rompe. Però il proprio è un LCD, c'ha una vita molto molto superiore a un tubo cattolico. Ma comunque ne ho visto un bel di questi televisori grandi, buttati. Ne ho visto parecchi, deve essere che ce ne sono molti difettosi. No, il mio LG è abbastanza buono, si vede benissimo. Il sistema 3D, abbiamo visto dei film allucinanti, con la mezza che sembra che ti esca fuori, wow, una cosa allucinante, roba. Ne ho visto un film di avventura, che vedere, stava nevicando la neve e ti veniva, come se ti venisse addosso. Cosa hai detto? Che mi ha LD. LG. LG, cioè LG, scusa. Hai ragione, LG. Stai vedendo, andiamo a sai che sei LED, ti è presente, LG attualmente è il top dei televisori LCD, non esiste al mondo un produttore più forte della LG, non perché ce l'hai tu già, sono abbastanza informato in materia. È il top dei televisori LCD, tecnologia top, 3D, non quello che c'hai tu, perché se ne ha fatto uno l'LG, un 3D che se lo vedi Full HD ti mette le mani in testa. Io sono sempre ancora col tradizionale, a parte ne uno qua in stazione che me lo metto nel camper LCD, però quando vedi quel televisore lì, tutti gli altri sono superati. È l'unico televisore che mi potrei comprare per avere il confronto con il tubo, perché la gente non lo sa, televisore al tubo a standard televisione, parliamo emissione standard, è ancora superiore al miglior televisore LCD al plasma. Poi se parli alta definizione, purtroppo il tubo non ce la fa arrivare a quel tipo di definizione, il limite del tubo è quello lì. Però se tu ti guardi una partita, canale Rai parliamo, una partita di calcio, e lo confronti con qualunque televisore LCD al plasma, quello che vuoi tu, in televisione standard, senza usare la definizione, è molto superiore ancora il tubo. Si avvicina all'LG con lo top di gamma, che ha un sistema rivoluzionario, eccetera, eccetera. Io l'ho visto davvero in prova, in esibizione, quel televisore, costa 3.700 euro già, 55 pollici, era una cosa pure dal mondo. Cioè, ancora non ho visto un'immagine migliore di quella. Poi l'LG fornisce, è uno dei pochissimi produttori al mondo di costruttori e non produttori, c'ha una tecnologia fuori dal mondo, sa il fatto che tutti i più grossi produttori di televisori se li fanno produrre dalla cosa, dalle leggi, mentre la plasma è il numero uno, e ancora fanno assurdo. Comunque sì, me l'ha detto che anche la Sony si serve da LG. Cosa ti stavo dicendo, Roberto? Guarda che il mio è abbastanza bello, è abbastanza all'avanguardia, c'ha computer, c'ha tutto quanto, non è un televisore di quelli scalcini, c'ha tutto, c'ha computer, è HD, e Marco mi ha corretto, non è vero, HD sono alcuni programmi, e ti dico bene, sì, ma se c'è il sistema nemmeno quelli vedi. Tu hai full HD, non HD, ti ripresenta già. Ma comunque è un bel televisore, l'unica cosa che c'è è che costano troppo i film 3D, bisognerebbe affittarli, farci la tessera e affittarli, però ci sono anche tante cose, guarda, è un computer il mio televisore, c'è la tastiera, c'è il computer, tu puoi dire ti colleghi al computer, vai sui tutte le parti, c'è la tastiera, c'è la freccia che cammina come il computer, clicchi sopra il nome che vuoi mettere e formi il nome. No, scusa Gianni, ma non interpretare male, ho detto che è un ottimo televisore, però il top di gamma dell'LG, che costa una cifra, ti ho detto, da paura, esorbitante, non c'ha niente a che vedere con i prodotti consumer di quelli che utilizziamo tutti quanti noi, è un televisore, diciamo, per usi professionali, quando vanno a fare dimostrazioni e cose del genere, è totalmente diverso, non c'ha niente a che vedere. Il tuo televisore è un ottimo televisore, lo conosco, Full HD vuol dire superiore all'HD, un'altra definizione allargata, ancora superiore, i pixel del coso sono superiori a quelli dell'HD, non è un dispregiativo Full HD, vuol dire che è meglio. Sì, lo so, tu pensa di aver avuto il cugino di mia moglie che praticamente lui c'ha un Samsung e mi ha detto, già lo sai che i colori sono meglio del mio. Sono meglio del mio i colori, poi ho visto anche Antonello Di Ussi, mi chiediglielo che gli ho fatto vedere tutte le cose che fa. Un giorno che è venuto a casa gli ho fatto vedere tutto, se ne è innamorato, gli è piaciuto un bel. E, diciamo che il 3D non si usa molto, perlomeno a casa l'abbiamo visto un paio di volte e poi un po' ti stufa cosa. Io a me piace molto come definizione, come cosa, anche come colori mi piace molto, invece il Samsung è troppo forte come colori, li accende troppo i colori. E naturalmente ogni televisore poi ha i suoi pregi e i suoi difetti, diciamo, come naturalezza. Tu il difetto, il confronto migliore puoi fare sulla pelle umana. Quando inizi a vedere la pelle che si avvicina alla realtà vuol dire che col televisore. Poi c'è qualcuno che quando va in questi supermercati sono tutti con colori pompati, te li vedi belli, cartoni animati, colori allucinanti, poi vai a vedere il bianco e non è un bianco, il nero non è un nero. I punti di riferimento sono il bianco e il nero e poi la pelle umana. Quando devi fare i raccordi, quando ti guardi la neve, il colore della neve che se è naturale, o il nero se è profondo del cielo e cose del genere. Quelle sono le cose che ti dicono la qualità del contrasto, diciamo, ti danno il contrasto tra il chiaro e l'oscuro del televisore. Comunque le leggi un ottimo televisore. Ti sto dicendo, comprando un televisore dovendo spendere, io ancora non me ne compro perché non c'è un televisore per le mie cose, a parte questo LG che ho visto nuovo, però costa troppo, perché c'è un cambiamento di mercato allucinante. Cioè, oggi c'è un televisore, tu hai preso l'ultima generazione, quelli con l'ingresso wifi per internet eccetera eccetera, con 3D, tubo, come si chiama, illuminazione a LED, quello è il massimo del presente. L'anno prossimo quello lì è già superato, ce n'è un altro, adesso ci sono un altro sistema di trasmissione, non più LCD, ci sono un altro sistema di display OLED si chiamano, una cosa che è quello il futuro prossimo, lo usano in qualche cellulare, c'è già quelli pieghevoli che li arrotoli, hanno una definizione allucinante, ancora di gran lunga superiore a quella che possiamo vedere in questi televisori normali, perché c'è una definizione di 4K, insomma 4 megapixel, stiamo parlando già a livello di fotografia, cose ancora, purtroppo ancora non ci sono i programmi di trasmissione, stanno facendo delle prove, per cui c'è un miglioramento continuo sulla qualità dei televisori, e spenderci i soldi, a meno che uno dice non mi butto fuori 200-300 euro, me lo metto così provvisorio, però spendere tanti soldi in un televisore secondo me non ne vale la candela, col rischio che l'anno prossimo sia totalmente superato. Sì, quello lì succederà sempre, ci saranno sempre delle innovazioni, specialmente diciamo in quel campo lì ci sono sempre delle innovazioni, dai. Se dovessimo guardare quello, io per dire ho un solo impianto, non so se tu lo conosci, stereo, colori bellissimi, no? Ma veramente bello come televisore, allora era il top dei televisori quando l'avevo preso. Beh, adesso è finito il cantino, si vede la bici, la mia moglie, dai tu, ma non ci mettiamo un LCD. Il mio LED è quello che ho io nuovo. Non so, il tuo di ultima generazione c'ha una connessione a internet, il massimo che puoi avere adesso già, però spendere secondo me più di 500 euro attualmente su un televisore io non li spenderei, per cui io ho fatto anche dei confronti, ho detto siccome io sto utilizzando la televisione normale digitale, in alta definizione i programmi non è che ce ne siano tantissimi, ho detto per il momento mi tengo questo qua, poi vediamo come si evolve il mercato. Io ho visto un televisore adesso parlando di marchi, c'è questo televisore nuovo cinese, perché i cinesi adesso lo sfasceranno tutto. Lo stanno già sfasciando, ma anche nel campo dei televisori, dei telefonini, ho delle prove su riviste che leggo io, c'è questo televisore che costa una cifra ridicola, sui 300 euro, un 55 pollici, comandi vocali, connessione internet wireless senza bisogno di fili, altoparlanti senza alimentazione, senza fili, che questa è una cosa allucinante, riconosce il proprietario del televisore, perché tu conosci la tua faccia, per dire se va tuo figlio non lo puoi mettere il control parent, il parental control per non utilizzarlo i bambini, se non ti vuoi fare accendere il televisore riconosce solo la tua faccia e si accende al comando tuo vocale o visivo se vuoi, cioè c'ha delle cose da fantascienza a questo televisore e costa 300 euro per dirti com'è il mercato e stiamo parlando di un televisore cinese, c'è un telefonino adesso mi ha tolto fuori questo telefonino, non so se la conoscete, la marca Huawei, che è il terzo produttore mondiale di coso, non produttore, a livello mondiale forse è il più grosso, però come penetrazione nel mercato è il terzo nel mondo, cioè ha superato marchi di gran lunga molto più importanti e fa dei telefonini che si gagliano all'iPhone e al coso e all'S4 della Samsung, c'ha un processore che è il più potente che esiste nel mondo, c'ha delle cose fuori dal mondo e costa una fesseria. Perciò le 7 non capisco che fosse un gaffo e basta. Ma hai visto adesso c'è il nuovo, il Galaxy, non mi ricordo come cazzo si chiama, l'ultimo che deve uscire, il contratto con l'iPhone 5, che lo stesso la comandi, riconosce la tua faccia, tutte le funzioni, anche col battito degli occhi cambi le cose, la pagina, cioè c'ha delle cose già da fantascienza, quelli tipo come usano i caschi, i piloti di caccia americani, c'ha delle cose lo stesso allucinanti. E invece c'è il coso vocale, lo salutici, ciao Galaxy, lui. Buongiorno, piacere di conoscerti, ti risponde? Sì, sì, sì, tra l'altro quelli sono computer, li puoi mettere tutte le opzioni che vuoi, ti può attaccare pure la televisione, tipo, per dire, ti inserisci il programma e ti diventa un televisore, sono dei computer, li metti il software, quello che ti piace, ma questo qua l'hanno ancora migliorato, ma adesso dicevamo da quest'anno non si chiamano più il tablet, adesso c'è l'incrocio, si chiamano phablet, l'incrocio tra il telefono e il tablet, li hai visti quelli grandi fighetti che adesso girano quei mega schermi che usano come telefoni, la moda nuova è questa qua, dice, nel 2013 c'è la nuova moda, qua in Italia ne ho visto qualcuno in Sardegna, qualche scemo che vuole apparire, ma in America sono tutti con questi mega telefonini che sono degli iPad e se li usano come telefonino, come quando c'è stato il discorso delle cuffie, ti ricordi? Tutti con le cuffiettine piccoline, là, tutti i calciatori con le mega cuffie, con le giganti, le hai viste? Così sta diventando il telefonino. Aspetta che c'è anche Marco. Ehi, europeo, e ne ho visto uno da un anno di questi. Praticamente aveva in mano questa pizza, perché era grande una pizza, come una pizza, sembrava un 10 pollici. Si stava parlando animatamente, capito? Sì, lo so, ma sono macchine, per me io quando li vedo ridicoli. Adesso c'è una cosa nuova, la Samsung che ha portato la macchina fotografica, la prima, l'ho detto proprio, cioè, la macchina fotografica col cellulare incorporato, no, il cellulare con la macchina fotografica, qua c'è una macchina fotografica col cellulare, proprio la classica macchina fotografica con incorporato il cellulare, per dire uno che gli piace fare le foto anziché prendersi il cellulare che ha dei limiti perché è troppo piccolo e mirino, c'ha la macchina fotografica allo stesso tempo può telefonare. Chi dà la nuova moda? Per seguire come fare fotografia quello che c'ho io, bella una macchina fotografica, roba. Sì, sì, però Gianni, adesso c'è il miglior telefonino, sempre di questa Huawei, c'ha 13 megapixel di definizione, una cosa fuori dal mondo, però c'è un mirino, cacchio, la punta del dito c'ha come mirino, per cui non è molto aperto come apertura di visiva, e non c'ha niente a che vedere col mirino che può avere una macchina fotografica nata per fare le foto, eppure quello c'ha 13 megapixel. Sai che zoom anche quello che c'ho io, zoom non so quanto sia come zoomata, però fa delle belle foto, vabbè, ti sto dicendo che abbiamo spento al buio il giorno del compleanno di cosa di un amico, e l'abbiamo spento tutto al buio, acceso le candele della torcia, quando le stava spegnendo ho fatto la foto, era fatta perfetta, sembra di giorno. Ma tu c'hai l'S3 Max, Samsung, è già un telefonino abbastanza evoluto. Calma. E vabbè, adesso è uscito l'S4, però diciamo che a me piace più. Piace quello anche perché come l'ho preso io c'era, diciamo, un pacchetto che era molto conveniente. L'ho preso con un pacchetto della 3 e ho comprato anche il telefono. Sì, ma poi se ti abboni a questi gestori grossi tipo 3, paghi una fesseria e ti danno qualunque telefonino che vuoi tu, l'S4, iPhone 5 o qualunque cosa vuoi che ti piaccia, l'ultimo ritrovato della tecnica, ma non sono appassionato di telefonino, ti dico, io ci ho avuto sempre Motorola, mi ha regalato mia moglie l'anno scorso il Samsung, il touch screen, tutto qua, e sono assolutamente scontento perché sono scomodi, mentre con quello a conchiglia il Motorola lo aprivi, i tastini li toccavi, dico, ogni tanto Simone Azzurra, cioè ti manda la chiamata che neanche te ne accorgi, sono troppo sensibili. Vabbè, io ho il Nokia a tastiera, ce l'ho ancora, nuovo, perché l'ho tratto bene il telefono. Beh, lo sai che era molto più pratico l'altro da usare, qua devi andarci, entrare in menu e fare questo e fare là. Invece quello lì prendevi, toccavi una voce via, e andavi subito per dire. Messaggi, ricevi messaggi oppure un nuovo messaggio, mettevi la cosa via e andavi dove volevi. Questo qui è un mezzo marcello, devi fare passaggini, sì, adesso che lo conosco riesco a fare tutto, però all'inizio un po' ho avuto difficoltà, non te lo metto. Io sono troppo complicati, boh, io a me mi piace il telefono e basta, tra l'altro io messaggini mi li mando agli auguri a Natale qualche volta, a me me li mandano normalmente messaggi, li ricevo, ma cacchio, ogni volta è una battaglia a mettermi con questo cavolo di touch screen che non riesco a schiacciare le lettere, che ne appare un'altra, mi azzuffo. Sto dicendo, sono assolutamente il contrario, io saranno belli a vedersi perché c'è un bel display, ti puoi vedere qualche immagine che è fotografato, connessione a internet, tutto quello lì va bene, però l'uso normale quotidiano non te ne va in uso. Ma infatti, se non fosse stato perché il mio telefono c'è la batteria che se ne sta andando, non l'avrei cambiato, perché la batteria costa un po'. Non l'avrei cambiato io. No, no, diciamo che già è bello la... Solo che prima si andava sempre sul telefono più piccolo, era più bello era. Adesso di nuovo sul telefono grande a cabina telefonica. Certo, lo sto dicendo, la moda nuova adesso questi tablet col coso, col telefonino e col volatto, che fanno ridere, ridicoli. Ce n'era uno, come ha detto lui, l'ho visto alla città mercato con il suo televisore in mano, telefonando e lui convinto, ma beh, ammazzati. Ok, riprendi, ma... E volevo dire a Gianni, che Nokia è quello che avevi? E chi se ne ricorda, è molto bello comunque, c'ha tutto, tutto quanto, fa di tutto. Però è a tastiera. Io sono rimasto al Nokia M70, ho quello lì, sta cominciando la tastiera a lasciarmi. Se non mi, c'ho ancora un 8007, un Motorola 8007, ve lo ricordate ancora? Sì che me lo ricordo, perché no, ma io guardo i Nokia li ho sempre preferiti a tutti gli altri telefoni, dico la verità, semplici da usare, ti cadono in terra, non si fascia, invece gli altri gadget non si viene più. Ho avuto un telefono, tanto l'ho pagato una barca di soldi lo stesso, me ne cadono in terra, non è più servito, invece il Nokia ha fatto 100.000 volte non si è mai fatto nulla, mai. 8007 lo stesso, era molto, un telefono molto conosciuto, ma io ne ho avuto parecchi telefoni, però sempre perché mi cambia mia moglie, io mi prendo quello suo, capito? Ma questa volta ho detto, vabbè, me lo prendo anche io, c'è un bel di anni, questo qua sta finendo la batteria e me lo compro nuovo. E così ho fatto, poi ho visto che c'era questa offerta qua e ho preso questa offerta, non dovevo comprare, ma visto che c'era l'offerta ho approfittato. Ho capito, e purtroppo io non sono molto innovativo nel cellulare, invece c'è un amico che ogni 6 mesi sta cambiando cellulare, è una malattia. Ma qui anch'io sono come te, sono quasi quasi a tornare all'altro che ci avevo, se trovo la batteria nuova guai. Tra l'altro era una scheggia, ti sto dicendo, lo usavo come... Questo qui diciamo che c'ha più... devi fare più mosse per usarlo, c'ha un bel di roba che tu manco ti immagini, tutto c'ha internet, quella di Bossudì. Ma è un bel telefono. Adesso poi è uscito l'S4, ho preso l'S7 e è uscito l'S4. Io invece, alla fine qua abbiamo deciso di prendere un tablet da 7 pollici, quindi piccolo, relativamente piccolo, per usarlo come computer. Però mi sono trovato un po' sbagliato con il sistema Android, capito? Io ero abituato a XP, perché su tutti i computer ho XP ancora, e Android è un po' diverso, poi sai, il touch screen non era roba per me questa, ma già mi abituerò, riprendi Roberto. Io qua ho trovato, mio cugino si è ricambiato, io ho l'iPhone, non l'iPhone come si chiama, l'iPad, lui si è preso l'ultimo modello, l'ha svenduto, mi ha dato 200 euro nuovo di scatola a me. Mio cugino è uno di quelli che dice, Gianni, che si cambiano le cose, l'ultima generazione del telefonino ce l'ha oggi, domani esce il modello successivo e se lo cambia, è uno di quelli che non gliela fotte nulla, si spende i soldi così, tutte le ultime novità ce le ha lui. E c'era il coso, ancora dentro la scatola, nuovo fiammante, non so da quanto ce l'aveva, è uscito il modello nuovo, mi ha detto 200 euro, io gliel'ho preso e l'ho dato a mia figlia, poi all'altra, la più piccolina, per Natale mi sta vaccinando, siccome non glielo do quasi mai, che sennò diventa un giocattolo quello l'iPhone, siccome questa, l'iPad, e gliel'ho nascosto un pochettino, e l'ha detto, va, te ne compro uno, ne ho trovato uno d'occasione nuovo però a città mercato di quel marchio che hanno loro da 7 pollici, che è un giocattolino, però funziona bene, non ha le stesse funzioni e funzionalità dell'iPad, però l'ho pagato 70 euro, quando l'ho preso io era appena arrivato, era nel volantino, c'era la fila, e avevo preso uno io e tre, un amico mio, che era uno per lui, uno per la ragazza e un altro dovevamo fare un regalo, avevamo un miliardo 4, trasferiti, era un prezzo allucinante. Android 4.0.1, l'ultimo software, diciamo, l'ultimo sistema operativo discreto, cioè aveva 16 GB di memoria, e per quel prezzo non c'è niente di meglio sul mercato, non c'era, adesso non lo so, l'abbiamo preso poco prima di Natale. Che cos'è? Un Dicra o un Lenovo? No, non me lo ricordo, non mi dire il modello. Però è bellino, non è una cagata, perché c'ha qua il coso, quello capacitativo, il display, non c'ha quello, quelli lenti, tipo abbastanza simile alla velocità di scorrimento all'iPad, non è la stessa cosa, le immagini non sono full HD, diciamo, l'iPad della Apple è tutta un'altra musica, però nel suo piccolo si dà da fare. Per avere qualcosa di simile devi spendere almeno 140-150 euro di marche abbastanza conosciute, ecco il marchio che fanno per la città mercato. Ho fatto apposta per loro, non mi ricordo il nome, tipo Razer, un coso così c'ha di nome. Sì, ce ne sono vari. Noi abbiamo preso il Mediacom 753D perché era l'unico che è completo e aveva 3G, quindi la connessione, diciamo, il modem per connettersi a internet, ecco. Perché con il wifi non sempre trovi punti di accesso. Con che cosa? No, dicevo, col wifi non sempre i punti di accesso liberi, quindi abbiamo preso quello che ha anche la connessione telefonica. Lo so, il limite dell'iPad è quello lì, che non ha la connessione coso. Deve utilizzare un sistema particolare loro, è tutto solo quello lì, cioè, non è Android, deve utilizzare solo con l'iPhone, lo puoi fare, eccetera, eccetera. Mentre questo qua invece, questo che ho preso io, c'è anche la connessione, lo puoi utilizzare anche sia filo che wifi, c'è Bluetooth, c'è un sacco di cose, e, diciamo, per quel piccolo va più che bene. Solo che, ripeto, l'ho spaesato, non ho fatto tante cose, non ho mai collegato al computer, non ho mai collegato a chiave USB, non ho mai usato in macchina come navigatore, ci sono tante cose che non ho provato, perché sono un po', non so come agire, cosa fare. E piano piano guardi le istruzioni e impari, per dire, io il telefono che ho preso io, vabbè, non ci sono istruzioni di un cavolo, non ti dice come usarlo, niente, proprio così, all'acqua di rosa. No, ce l'ho anche io, insomma, non è aggregata. Ti sto dicendo, per imparare quel telefonino, mi la passano, hai visto, c'ha le leve ideate, ti puoi memorizzare una qualunque cosa sopra, si chiama quello widget, lo chiamano loro, o una cosa del genere. Cata, prima di riuscire a capire come si faceva a cancellare, perché mi metteva cose che non mi interessavano, cose, cioè, ma, e non le volevo tu, ci sono stato una sera cercando di capire, dopo tanti tentativi, è impressionante quanto è complicato da togliere certe funzioni. Per l'altro è abbastanza intuitivo, ma per certe, mamma mia. Sì, è vero. È vero. È successo anche a me. Vabbè, comunque piano piano te lo conosce. Beh, visto come si fa per eliminare la cosa che non vuoi, per dire le pagine che hai aperto, che basta che tu lo mandi verso il su e ti sparisco. Oh, Roberto. Select line. Come? Select line. No, c'ha un nome piccolo, Razer mi sembra, un nome così piccolino, corto, è un marchio che fanno apposta solo per loro, me lo stava spiegando il tipo, magari è il clone di un altro marchio, quello di Bosco di Toshiba o qualunque altra cosa, però loro solo fanno marchiare, tipo il Mercatone che si fa marchiare con Forama e lavatrici elettrosdetta, che le vendono solo loro, la stessa cosa fanno per queste cose, anche telefonini, fanno tante cose di questi prodotti di grande consumo, marchiati con questo nome tipo Razer, adesso non me lo ricordo, già te lo dico quando me lo ricordo. Io conoscevo la marca Laser, che la vendeva Ocean, Laser. Laser, quello lì sto dicendo, quello lì fu. Ah, tu compreso, io. Sì, ne avevamo vari tipi, faccio vista anche quello. Addirittura una volta hanno venduto in offerta un tablet da 7 pollici a 59 euro. Aveva sempre il wifi, no? Non 3G. Allora 59 euro, per dire, chi ha il 3G, per chi ha la connessione sicura, era un prestaggio. Allora, quello era 59 euro, è arrivato immediatamente a quello, che quello era il modello precedente, è arrivato il modello, quello che ti ho detto, a 69 euro. che era il display camera, aveva il sistema di display di scorrimento, ora era inutile per capacitativo, era più veloce, molto più veloce. Infatti anche quel tipo mi ha detto, guarda, questo c'ha l'ultimo tipo di display di comando, c'ha il touch screen, c'ha il 4.1 di coso, di cacchio si chiama, di Android, l'altro invece c'aveva il 3.8, adesso mi ricordo, successivo quella, l'ultima versione del 2012 dell'Android. Ho detto, prendi questo per 10 euro e l'abbiamo mirato 4, per dire. Esteticamente erano uguali, però cambiava qualcosa tecnicamente. Ecco, per esempio, le istruzioni non dicono niente, anche nel mio. Cioè dice solo dove c'è il tasto di accensione, il tasto volume, no? E i vari spinotti che puoi utilizzare, però non parla del sistema operativo. Infatti volevo prendere le cose in librettino, quello per principianti, che parla del sistema operativo Android 4.1, come hai detto tu, in modo da conoscere meglio il sistema operativo, che ne so, la gerarchia delle cartelle, il tipo di file system, quella roba là. Beh, invece, una parentesi, non riesco più a entrare su eBay. Tu mi avevi detto che l'avevano messo da un'altra parte. Io andavo su elettricità, elettronica, elettricità, eccetera, eccetera, e poi andavo lì, su quella voce CB, radioamatori. Adesso non riesco più a trovarlo, non ha nessuna parte. Per radioamatori, sì, l'hanno tolta per la pagina, però tu scrivi, per dire, vuoi vedere Chemod, tu scrivi Chemod DS440 e ti appare direttamente la pagina dove c'è scritto articoli per radioamatori, non appare più, perché devi entrare su varie. Molte volte c'era e molte volte non c'era, infatti io quando voglio entrare su quel genere di coso, di apparecchiature, scrivo il modello, per dire, scrivo, vado su articoli di elettronica e cose del genere, poi scrivo, c'ho varie, e poi scrivo articoli, per dire, il modello dell'apparato, Chemod DS440, ti appare la videata, scanner, HF, ricevitori, eccetera, eccetera. Stava prima, non è più facile entrare, allora, ti dà uno di uno la pagina per dire, cerchi articoli CB radioamatori, ti dà una di uno e basta, e non ti dà di altre immagini, ma non è possibile che ce ne siamo così pochi. L'altro giorno mi stava afferrando, non ce l'ho fatta, però Roberto mi aveva detto che l'aveva spostata l'altra parte, sono andato anche lì e niente, ho detto deve essere anche da lì, l'ho tolto. Non capisco perché stanno facendo questo casino. Non so, infatti, non so cosa è pure, adesso c'è eBay annuncia, hanno fatto un sacco di confusione, prima c'è eBay classico, eBay annuncia, hanno fatto, ma eBay ha perso almeno secondo me il 50% del mercato, prima articoli tutti su eBay, adesso tutti senti su subito, perché è più diretto, parli direttamente con la persona fuori dall'asta, perché era troppo complicato, ogni volta dovevi aspettare la scadenza del coso, fuori dall'asta la maggior parte della gente non comprava, perché magari ti mettevano il numero di telefono, dicevi poi no, eBay se no dice cosa, mi dà, eccetera eccetera, veramente ti davano fuori asta perché dovevano mandare una giustificazione, però se lo facevi tante volte alla fine ti cancellavano, non ti facevano più entrare come venditore, mentre con subito è più sbrigativo e ti posso dire, io ho comprato molto da eBay, però ultimamente sto comprando da subito, è più sicuro, più veloce, parli direttamente e non ti romperti la scatola. Come funziona subito? La stessa cosa, c'è un'altra, no? No, assolutamente, c'è il tipo, non ci sono mai entrato, scrivi www.subito.it, c'è scritto tutte le regioni, clicca Sardegna, se vuoi acquistare solo in Sardegna, oppure in tutte le regioni, oppure le regioni più vicine, scegliti tu, sono gli argomenti, tu ti interessa audio, video, se vuoi girare per dire articoli radioamatori, lì non c'è scritto, però scrivi audio, video, ti appare tutto, dagli amplificatori lineari per dire a lettore CD, qualunque cosa inerente all'elettronica, poi lo vuoi scrivere nel specifico, scrivi trasmettitore CB, oppure Chemod UTS, oppure ICOM, e ti appare tutto il marchio di quello lì. Io ho comprato un sacco di roba da lì, velocissimo, telefonato, le casse Infinity le ho comprate di lì, cos'è che cacchio ho comprato ultimamente? Il ricevitore di CR7000 l'ho comprato lì, poi cos'è che ho comprato? Lasciami pensare, delle piatte di registrazione, dei sintonizzatori, un bel di roba ho pigliato anche lì, velocissimamente e non mi sono manco. Cioè veloci, molto più veloce di B, invece B molte volte dovevi entrare all'asta, no? Non c'era il tempo, lo sai quante volte ho perso tardi, sino a tardi aspettando per l'ultimo secondo, ma lì la linea ti saltava e ti fregava l'altro. euro per pochi secondi, mi è capitato diverse volte, molte volte acquistata, però qua invece è tranquillo e secondo me è anche più sicuro, perché vi sono fatto di B, molte volte questi prezzi bassi che ti mettono 10 euro una cosa che costa 100, adesso le pregature se ne sentono molto di meno, ma prima di avessi qualche cosa pure tu erano andati. Beh, tu queste casse Hercules le conosci? Sì, Hercules fa il coso, diciamo sono delle marche fittizie, non esiste mai, usano un componente, può essere ti posso dire, di qualunque marchio o produttore di altoparlante, loro ce lo marchiano Hercules. Hercules fa i coso, le console per DJ, marchiate Hercules, quelle con i CD oppure con le pennine USB che ti metti il coso. E cosa sono, casse attive o passive? Allora, io ho due casse 2.1 che ho comprato così, per sfitto così, per attaccare al computer. C'hanno un suono queste casse allucinante, sono bellissime, proprio un suono pulito, bello, forte. È perché questo computerino che ho io non ha altri difetti, però il volume è basso basso. Quindi con l'altra che queste casse è un altro mondo. Sì, ma il computer naturalmente, tu stai parlando di un computer portatile o di uno basso? No, portatile, diciamo un computerino piccolo, l'ho preso proprio per la stazione, perché di modo che non mi debba alzare ogni volta, andare al computer in cucina a fare questo e quell'altro, e se no me la attaccare. Così c'ero nella mia stazione, quando vedevo una cosa me la guardo, capito? Non devo stare a ogni volta alzarmi e andare là. Cioè, da Giulio mi sono fatto costruire questo mobile praticamente con l'estraibile, dove ci metto il computer, poi lo richiudo e divento un ripiano normale. Sì, sono bellini, anche io ne ho, vabbè io ho quello bambato Franco, come si chiama, Franco Delta 1, ce l'ho già da un po' di anni, sta sempre andando un vecchio Acer, però va benissimo, poi ne ho preso uno quando l'ho comprato, mi sembra, due Natali fa ne ho regalato uno a mia moglie, piccolino, di quelli bussano 8 pollici, e l'altro più piccolino, lo stesso della stesso genere, l'hanno regalato a mia figlia quando ha fatto la crisi, ma 2 anni fa lo stesso. In casa, quello grande l'ho eliminato, tanto era un marrasone, quelli fissi, non me ne ha potuto usare, me lo tengo qua in stazione, mi guardo le cose in contemporanea, quelle quando sto parlando, non c'è nessuno in radio, mi accendo il coso e me le guardo. Naturalmente sono apparenti con altoparlantini ridicoli, peggio delle cuffiette sono, per cui non puoi pretendere niente. Anche qui ci ho messo delle piccole cassettine piccoline della Philips col subwoofer sotto e un po' l'ho migliorato il suono, ma se ti metti a comprare non esci più di quelle apparecchi, ci sono prezzi da 50 euro sino a centinaia e centinaia di euro, per non dire migliaia di euro di costi, per cui già va bene così. Molte volte me ne vado su YouTube e mi ascolto un po' di musica degli anni miei, diciamo, e tanto meglio di non ascoltare niente. Anche io faccio così, per quello la musica rende un bel, la musica, guarda, rende tantissimo queste casse. E ho visto che c'erano anche le Bose, ma costavano 100 euro, erano troppo care, anche se non sono perfetto, però 100 euro, ma due casse piccoline e un sub. Sì, ma io ho visto dei computer già, vabbè ho visto, l'avrei visto anche tu, ai concerti che trasmettono la musica al computer nei concerti da stadio, cacchio, ci mettono delle schede audio allucinanti. Beh sì, adesso con nuovi metodi usano queste cose qua, usano i computer. Il computer fa tutto, se tu ti metti in testa, molti strumenti non dovresti più avere il computer, perché non c'è bisogno più di avere altri, cosa ti posso dire, lo stereo, cosa te ne fai? C'è la musica, vai, ti ascolti il brano, quello che vuoi, puoi fare il karaoke e non hai bisogno del karaoke, puoi anche modulare, perché ci sono dei programmi che praticamente ti vedi e poi in più parli, e quindi è come se modulassi. Insomma, ti fa tutto dalla A alla Z. Non hai più bisogno di avere strumentazioni, basta una cosa unica che fa tutto. Infatti l'hai visto poi i ricevitori, quelli abbinati al computer, ti metti le mani in testa, a me mi ha dato sempre Franco un programma, cioè, se vedi che fa quello che fa con quel cacchio di coso, di programma, tutta la modulazione, vedi la forma d'onda, l'analizzato del rispetto, tutto quello, esatto, c'è tante di quelle funzioni che nessun ricevitore si avvicina, è una cosa allucinante. È bellissimo. Poi tutta la musica, come hai detto tu, ormai gli strumentisti stanno decadendo, fanno tutto sintetizzato al computer, qualunque strumento te lo riproducono e fanno quello che vuoi, perché qualunque cosa senza bisogno di spendere soldi. Marco, per dire, ma il computer suona il pianoforte, fa tutte queste cose qua, lui fa musica a scuola, quindi ripete quello che fanno, canta, suona, fa, si registra le canzoni cantate da lui, di tutto, fa di tutto e di più. Non so perché il karaoke, quelle cose lì, ormai è tutto tanto pieno di corso, tutte le basi musicali, e prima 10 anni fa, non so, vabbè 10 anni no, diciamo 20 anni fa era una cosa sconosciuta, ormai vanno a questi corso, col computerino si mettono la base sotto e cantano sopra questi gli artisti. Perché Manuela non fa così? Anche a casa ce l'ha, no? C'ha il mixer collegato al computer, due casse di quelle grandi, e prende, si mette la base e canta, e poi si registra per sentire se ha sbagliato qualcosa, eccetera. Ma così, oramai qua è diventata, come si chiama, una sala di registrazione. Insomma, poi adesso fatti una piccola studio di registrazione, ormai se lo possono permettere tutti, non costa cifre esorbitanti, ma prima quando doveva avere mixer, microfono e tutto quanto, un sacco di roba, ci volevano un bel di là. Invece adesso ti aggiusti anche a livello casale, cioè riesci a farti una bella registrazione con tutti gli effetti e tutte le cose, ti pulisci il suono, per dire, se c'hai un riverbero di una stanza, entri lì, ti manipoli quello che vuoi, ti cambi tutto quello, la forma d'onda, l'ampiezza del segnale, ti cambi la voce, ti metti lo strumento sopra, puoi fare lavorare su tutto, addirittura ci sono programmi, prendi una canzone qualsiasi, te la pulisce, ti toglie le parole e ci puoi cantare sopra tu, per dire, con dei programmi. Ah, il ragazzo di mia figlia c'ha praticamente DJ, e il padre lo stesso suona, fa serate nei locali, eccetera eccetera, oltre al lavoro che fa, vabbè, fa anche queste cose qua, e praticamente c'hanno proprio la sala di registrazione con una strumentazione grossa e tutto quanto, quando vuole registrare se lo può registrare anche lì, non è che c'ha, diciamo, il padre vuole, non è che non c'è l'interesse, perché non gli sfascino nulla, perché la strumentazione è tra il padre, quella che c'è dentro, è appassionato anche il padre, proprio una cosa di famiglia. Poi Samuele sta anche, diciamo, organizzarsi bene al mixer e tutte queste cose qua. Io ho detto, perché non fate una cosa, se vi volete fare un po' di sud d'estate, uno canta, l'altro suona dal vivo e vi fate le dinamiche. Ah, senti, nel giro giusto ti puoi fare un sacco di soldi. Io ho amici che lo fanno, amiche, lo stesso, si vede, non vedo un bel di là. Mi dirai, è un lavoro sfiancante, perché d'estate fanno ritardi, stanno sempre girando, si stancano parecchio, però in un paio di mesi, se entri nel giro giusto e se suoni almeno 3 o 4 volte alla settimana, ti vai un bel di là. E in 4 volte sono 600 euro. Poi se magari ti riesci a abbinare a qualcuno conosciuto, magari che fa qualche serata, magari è importante, tu ti metti come gruppo di apertura, è ancora meglio. Emanuele sta facendo c'è un contratto con cosa, con TDG, adesso deve fare tutte le, nei paesi dove ci sono feste, cosa, doveva TDG o anche lì. E bella cosa, a proposito di TDG, siccome io sono anni che non guardo la televisione privata di Sassa, di Sassa e dintorni, mi ho guardato la Dinamo ieri, perché io la guardo solo al satellite, la televisione, le televisioni private sono anni che non le guardo più, e esiste ancora la TeleG come televisione, Antenna 1, io non le ho più cercate, mai più viste. Sì, TeleG, sì, Antenna 1 non fa più telegiornali, io guardavo sempre il telegiornale di Antenna 1, c'è anche Antenna 1, ma non fa più telegiornali. A me mi dispiace molto, perché a me piace la telegiornale di Antenna 1, lo guardavo sempre, adesso a meno che abbia ripreso ultimamente, perché non l'ho più guardata, perché proprio adesso guardo il videolino e basta io. Sì, TeleG c'è comunque. Un non lo so, io te lo ripeto, sono anni che non ne guardo più televisione private, proprio non ho avuto mai. Era capitato prima molte volte quando c'era Aspirina, ti ricordi quei programmi, me li guardavo, ce le ho quasi tutte le registrazioni, però era ancora in analogico la televisione, da quando è digitale è proprio nulla. Infatti un po' ha perso la verità anche a me, sempre c'ho tutti questi programmi in più che non guardo, io perlomeno sono così, guardo sempre le solite cose che guardavo prima, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Videolina, le solite cose. Prima guardavo qualche guarda quello che guardo è di Max, quello lo guardo volentieri, mi guardo un po' tutte le cose perché mi piace, mi dice che sono fissato, se mi piace è vario. Sì, adesso facciamo prendere la mappa, avanti Marco, tu cosa guardi in particolare, che genere? Allora, la Telegi era una televisione casareccia, però nel suo piccolo c'era molta fantasia e diciamo piacevole, pur la qualità assolutamente antiprofessionale, perché non aveva la professionalità, era proprio i servizi, ogni tanto ne trattava un pezzo, le cassette, adesso vabbè siamo digitale, le cassette non c'erano più, ma prima li utilizzavano le stesse cassette 20 volte, magari l'immagine riusciva sgranata, per cui un sacco di problemi. Però c'era molta fantasia perché faceva anche programmi, magari se avessero avuto soldi potevano essere carini, molto più carini. E comunque lo sai che trasmette gli ATG con il Bicchisio, quello che faceva Bacchisio, te lo ricordi? Già lo conosco bene. Bacchisio, la radio giovane ha trasmesso, te lo ricordi? Sì, Bacchisio non l'ha fatto lì, la radio giovane ha cominciato con Bacchisio. Bacchisio, Galeno, si sa, ma prima o poi vedrà si sa barato. Sì, era simpatico. Considerando la cultura di una persona, quello fa delle belle interviste, cioè non è un professionista del giornalismo, però tu lo vedi, fa delle belle interviste, segue la Torres, la seriale, credo che sia, fa tutte le interviste, anche la Torres maschile, la Dinamo, diciamo, per il tipo di lavoro che fa lui è autista di coso, di autobus, non ha avuto per dire una scuola di giornalismo, però se la cava molto, molto bene, fa una bella parlantina. Come di autobus, no, ha portato il camion dei gelati. Cosa? Ho guidato il camion della Motta, dei gelati. Non lo so, io lo conosco come autista di autobus, di tram, dai. E allora adesso ha fatto un salto di qualità perché prima ha portato i gelati. Non lo so, non insisto già, non ti so dire niente. Ok. No, oh, ma sono di quei personaggi piacevoli. A me che non potevo vedere chi su Illusione, te ricordi che faceva quel programma della uno che si sdraiava tutto con la bandana, te ricordi con quella fare tre braccia, quella specie di sva. Ho capito, con la tipa che aveva Ferragone. Ma proprio due ragoni, tutti e due, grizzly, nel senso, ecco, convinti di essere alla moda, di cose, mamma mia, ogni un'altra. E poi c'era quell'altro che faceva monitorando, te lo ricordi, che ti dovevi pagare per fare il programma. Ah, e coso, quello che ha fissato di essere nato vero. Hai capito bene, quello lì, mamma mia, sono certi personaggi, mamma. Non l'hanno mai fatto, mi riproposto a tre così quando andavano a Telegia, anche alla corrida, che era Gesù Cossetto, Buonanima, che anche la divertente, a me non vedevi gente che conosce ogni risata. Questi programmi casareci, che sono i programmi che dovrebbero fare questo tipo di televisioni, non ne hanno più fatto. Tirate di queste cagate di molte volte di argomenti che non ti hanno fatto nulla, di modellismo, hai visto quelle cagate lì di baseball, a chi interessa quel tipo di... A me, guarda, c'era uno che mi sta un po' sulle palle, come ti chiamava, aspetta, si faceva chiamare, ma, però, non Gianni Divis, un altro, aspetta, come cavolo si chiamava, quell'altro che, non mi viene, è uno che fa l'intervista, lo faccio così. Sede nel Soleandro? No, guarda che è tipo privato lo stesso. Ma non mi viene adesso, che è un bel barro così, ma che un giorno mi ricordo che c'era uno spettacolo all'attore a palazzetto e io ero al cancello. Oh, interessante. Stavo facendo servizio d'ordine e dovevo aprire il cancello solo alle persone praticamente che dovevano partecipare a questo spettacolo. È arrivato lui con la Mercedes e Paul De Santi. Te l'ho detto io. Paul De Santi, un altro buon padre, quello ha fatto, non ha mai lavorato in vita sua, ha vissuto sotto solo di questo, ma è un personaggio quello, siamo bifidi. È convinto di essere bravo, però se vorresti dire è tutto atteggiato. Lui è stato in ambienti musicali di questi presentatori cosa ed è convinto di essere, ecco, lasciamo perdere. Vabbè, ci stanno anche quei personaggi, ma non c'è niente a che vedere con la, come si chiama, con i veri intrattenitori. E quell'altra che fa la presentatrice, come si chiama, che faceva quel programma, quella tipa bionda, Amici miei, mi sembra che si chiama, Amici di non so chi, lo stesso all'Antenna 1, mi sembra. No, quello, sì, Amici miei, il programma già me lo ricordo, però non mi ricordo chi è lì. Ma lui mi ha detto, ma lo sai chi sono io? Ha detto, sì, e chi è? Sono Paul De Santi. Chi sarebbe? Io lo sapevo, chi sarebbe? Ebbè, non gli potevi dire, ah, Paul De Santi, vieni che ti faccio un autografo. Dice, guarda che io faccio parte dello spettacolo. Ah, se mi dici così, allora posso anche chiamare. Avevo la radio, chiamato, dice sì, si farò passare. Vabbè, ok. Era davvero un bagliaccio. C'era Paul Bar. Benvenuti al Paul Bar. Mi presentava e cantava pure, perché io qui sono entrato dentro, quando sono entrati in tutti, ho chiuso i cancelli e sono entrato dentro a fare, e pure la forza di quel bambino che è caduto dal palco. Come bambino? Non l'avevi saputo, è caduto un bambino praticamente, abbiamo visto questo movimento strano, tutta gente correndo, tutto questo accaduto, c'è qualche rischio, siamo andati correndo, è caduto il bambino dal palco, si è fatto male veramente, l'abbiamo portato in ambulanza. Ma dal palco di che cosa? Dove era questa roba? Era al palazzetto. E tanti altri un palco. Praticamente è caduto dall'inferriato della ringhiera che ci sono, si è arrampicato di blu e ci è sceso giù. Ah, non è proprio sul palco, infatti a te quanto può essere alto? Praticamente tu hai visto, ci sono i passaggi per passare la gente tra una fila di sedili e l'altra, l'hai visto com'è? Sì, sì, ho capito. Loro rimanevano proprio sopra, sopra la galleria dove passa la gente. E lui è caduto da lì e è caduto giù. Capito? Se ci fosse stati sedili magari la caduta sarebbe stata anche ammortizzata, invece è caduto tutto giù. Sì, ho capito, quindi era abbastanza in alto. Poi quando cade ha preso molto così, vabbè. Ok, speriamo che sia andato tutto bene, penso di sì. Sì, penso di sì anch'io. È stato ricoverato, comunque è una trama, in coso. Vabbè, se l'ha preso lo spavento la madre, poveraccia. Però perché non stanno attenti questi bambini? Io i bambini li pulivo sempre sotto gli occhi, sempre. Anche adesso che è più grande, Marco, sempre sto banco, dove stai andando? Io sono molto... Sarà molto che è scappata Manuela. A me ne ci vanno 10 occhi, sempre attenti, non mi devono mai fidarsi. Poi so, le cose pericolose le vedono tutti loro, di arrampicarsi, di cose. Non hanno la valutazione del rischio e del pericolo. Ok, riprendi Marco, vai. Riprendi se tu vuoi, già, sto ascoltando. Marco sta addormentando. Marco! No, stavo guardando un pezzo di Rete 4. C'era Ramo 3 e mi stavo guardando il commattino. Io ho pensato a Paul De Santi come elemento, me lo ricordavo perché tanti anni fa aveva i capelli lunghi, sembravano scegliere. Sì, me lo ricordo, ma è un poco convinto. Lo sai che è pizzicato già? L'ho sentito dire, ma non so se sia vero. è vero al 100%, anche se gli piace anche l'altra cosa, però è bello bisigato. Bisex. E io. Chiamiamo le attive passive. Com'è, com'è? Che bisigato in sassarese, poi capisci a me. Prosciu. Non lo volevo dire, adesso si chiamano gay. Invertiti. No, si chiamano diversamente eterosessuali. Quelli che sono diversamente magro. Io sono diversamente lavorante. Cazzaro, allora tu cosa sei? Io sono naturale, uomo vero. Poi, l'uomo che non deve chiedere mai. Non è per essere cosa, ma a me quando le vengo gira al lago passa via, non le posso vedere. Poi non è questione di dire contro il ghia, arrangati, se tu se vuoi essere ghia sai ghia, però stai lontano da me, a me devi lasciar perdere. Vabbè, lo sai che una volta sono stato abbordato da uno di quelli. Ma Sabisi, se te la fanno studio, già, cambiamo argomento, guarda, mi nervosiscono troppo quelle cose, guarda, ne so tante di studie che mi fanno anche schifo a vederle in certe situazioni. Dico, tu sei quel tipo lì, sì, rimani in quei ranghi tuoi, però non ci mettere in mezzo la gente che non c'ha niente a che vedere con le tue idee. Poi, se tu ti vuoi fare quel servizietto di contattore di luce dietro, fatelo mettere, però non ci mettere in mezzo ad altre persone che non li interessano. Poi non condivido chi è che va a cercarli per picchiare, quello no. È come una malattia, secondo me. È una malattia inculabile. Ascolta, beh, hai sentito che anche in Francia hanno ammesso il matrimonio gay e anche l'adozione da domani? Vabbè, lì ci sono macchine già, io questa cosa non concepisco. Perché non esiste, cioè uno ci, la vita è uomo e donna, dico, poi se tu vuoi fare altre cose fatele, però non puoi pretendere di equipararti alle persone normali. Cioè come dici, un tossicomane deve adottare i figli, parliamo di cose che non c'è niente a che vedere. E io la vedo la stessa cosa, è una cosa fuori natura, la natura è quella, poi se ci sono altre cose, certe cose non le puoi fare tu. E come ti dico che 1,50 m non puoi giocare a pallacanestro, tu. Per giocare a pallacanestro devi avere una certa altezza, e così secondo me per adottare i bambini devi avere dei requisiti anche morali, e invece purtroppo queste cose non esistono più, e non è che c'è antiquato, io sono per il rinnovamento, però rispettiamo le leggi della natura. Ma io la penso, è proprio uguale a te, non fai una virgola. Proprio precisamente che a te la penso, rispetto tutti, però non li condivido certe cose. Uno che è un bambino adottato da due gay, che vede due gay che si baciano, si sente autorizzato di farlo anche lui. Quindi lui vede quello lì e impara quello. Sarà un futuro gay. Io adesso su questo argomento ne potrei parlare per giorni e giorni. Io dico una cosa, se parliamo di una persona che non ha subito dei traumi, delle educazioni particolari o delle cose strane, degli shock, difficilmente, a meno che non ci abbia altri problemi, una persona sana, parliamo, che va dall'altra fonda, non ci credo. Secondo me ho avuto un trauma infantile, uno che va in quell'altra direzione lì. Trauma nel senso, può essere aver visto qualcosa, aver subito delle cose, solo così, perché una persona normale non è inconcepibile che diventi dall'altra sponda. Poi dimostratemi il contrario. Poi ci sono i viziosi, che quelli diventano per vizio, che vogliono provare, eccetera, eccetera, e poi ribiarsi, è quello il discorso. Però una persona che ha vissuto un ambiente sano, familiare, con tutte le cose normali, eccetera, eccetera, non ha problemi psichici, assolutamente, secondo me, non può diventare. È una cosa che è dovuta, quel tipo di atteggiamento, a delle situazioni estranee alla normalità. Mostratemi il contrario. Io conosco una ragazza, Roma, che è stata 9 anni fidanzata. Fidanzata con un ragazzo, poi si sono mollati, adesso è diventata gay. C'ha la fidanzata, invece più fidanzato, c'ha la fidanzata. Non torniamo con l'argomento, adesso non va a parlare, se no gli faccio nome e cognome di persone, che è normalissimo, più dei maschi, quante ne conosco, poi in ambiente calcistico, non ne parliamo. A me mi arrabbiano le luci. Anche a me, naturalmente, vuol dire che non hanno mai provato l'ebbrezza della velocità. Perché un coniglio c'è roba? No, velocità a parlare di altre cose, cambiamo argomento, se no si viene il babbucaccione, non mi piace parlare di queste cose via radio che c'è gente che ascolta, parliamo di cose serie. Ok, discorso che è finito, discorso dall'altra parte è finito. Cambiamo argomenti, parlami di cosa si parla, boh, ditemi qualcosa. Ma sono robe, secondo me non ti vergognare certe cose, stiamo parlando di cose che succedono ogni giorno. E quindi sono cose, adesso sono diventate normali anche se non lo so. Vabbè, non c'è problema. Io ho sempre, sono sempre impazzito per le donne, poi e di votare anche sui gripiani. Gianni, andiamo via Rockefeller al circolo B. No, guarda che c'è un'etta pedalina. Oh, ho capito già, ma non ce ne sono stato più in giro di quelle situazioni. Guarda, io non sono mai stato un frequentatore, non sono mai andato, non so dirti nulla, però ho sentito dire che li hanno tutti chiusi, cioè se ce n'è uno solo, ed è a Pedanieta, vicino, mi hanno detto che è vicino la Oppa, il buono, una cosa del genere, che ce n'è uno è abbastanza bello, e l'ha portato anche un CB. Io bisogna andarci tutti in compagnia, dai, magari cambi idea sull'altro sesso. Non ricordate il film Scuola di Polizia? Sì. E vi ricordate anche il locale Ostrica Blu? Che c'era quel tipo che sono entrati, volevano picchiare a tutti i poliziotti e poi si erano abbracciati e c'era quella canzone na, na, na, na, e si sono portati a ballare, l'hanno preso, quelli tutti vestiti in pelle. Così è quel locale, mio. Guarda che loro, nel loro piccolo, si conoscono tutti, mi hanno delle attività ricreative, vanno a leggere insieme, a coccolarsi, a raccontarsi le storie, eccetera, eccetera. Cioè, per certi mesi sono organizzati bene, hanno il loro leader, quello che si batte per tutti i diritti delle cose. Vabbè, finché ti comporti bene, io dico, ma quando vedo delle scene, a me mi ha raccontato un amico mio, ha visto una scena ai giardini pubblici, era con la ragazza in penombra, diciamo, un periodo invernale, c'era un po' di buio, c'era questa coppia di due maschi, si è incinato uno sotto davanti a tutti, dice una cosa ha combinato davanti alla ragazza, loro sono rimasti scioccati davanti a tutti. E certo, i giardinetti poi è un ambiente, per carità, meglio non andarci. E vabbè, purtroppo io ho scoperto una cosa, sai, una volta andando con amici, così per sfottere roba così, da ragazzo, abbiamo scoperto uno che abitava nel portone di un amico mio, lui non lo sapeva che era lì, abbiamo scoperto partendo. Cacchio già. Ma ci credi che si è nascosto questo amico mio perché si è vergognato di farci vedere? Io ci rimarrei male, molto di più di lui sicuramente, perché vedo un amico mio che tu sei sicuro che sei una persona che te lo vedi così, fare finta di non vederlo, mi allontanerei. No, questo amico mio ha visto uno che abitava nel suo palazzo, capito? E si è nascosto per non farci vedere. Cioè io che ce ne andiamo, che vergogna, cazzo, che vergogna. La vergogna deve averla lui, non tu. Io mi ricordo una notte, noi la notte prima di sposare eravamo sempre in giro con degli amici tutti quanti in compagnia, e molte notte si andava in giro, io andiamo in giro così per le stradine, puzzi, e aspettate un po', una notte siamo passati nella via del Corso Vittorio Emanuele, e lì si metteva la notte, non so se l'avete conosciuto, Monte Segiama, ma era a Pai. E a Guglia, ci mettevano invece la lupi vecchio lì. Detto bene, siamo andati lì, abbiamo la faccia intera, e questi amici, sì, beh, ma chi sono questi a parlare, tutto quanto, io nascosto, ne avevo la faccia intera, se mi vede grazie lui, ma ha detto la macchina, mi detto, e c'era questo qua che stava guidando, un amico, un faccia di merda che non finisce più, proprio sfarato, ne ha raccontato tutto, come ha iniziato, tutto, ma poi arriva a un certo punto, e gli fa questo qua, non sai che a te ti conosca quello che c'era a fianco a me dietro, dice, vabbè, siccome questo è peggio di me per i gay, proprio non ribuvire. Lo sai che ti vedo tutti i giorni che tu passi qua, tu mi piaci, cazzo, di noi cominciamo a arrivare. E la verità già qua, tu passi tutti i giorni qua, scuola, ragazzi. casa abitava vicino di lì, una di quelle strade via, come si chiama, via Sant'Anna, boh, non me la metto neanche. Tutti i giorni ti vedo, tu mi piaci, ma sei fidanzato, tata, noi rilene, morente, chi ti ho già baciato, ma non ti innanzi. Ma era la parte della vicino. E io lo facevo avvicinare dalla macchina, lo chiamo Maria, vieni, come stava per avvicinarsi, poi devo accelerare di colpo e me ne andavo. Ah beh, poi una volta siamo andati, perciò poi la pulizia, questa mi conosco, io infatti mi faccia, mi avevo la faccia interessa se ci vede qualcuno, c'era una tipa che si metteva in via Leate di fronte al coso, ai, come si chiama? Non in via Leate, di fronte a San Giuseppe, dove c'è la cinemasta, lì si mette, tata si è fermato, fa vedere di un'ora, vita. Io se la conosco tutta la vita, ma come è iniziato, dai, perché non provi a uscire? Sto facendo il filosofo con questa, e la mi serve una studica, io sarei Beatria però. Tu lo sai chi era quella lì? Che ci vestiva in pelle? Che era ucciso il gatto. No, quella lì era un ex CB. Ex CB? Scusa. Angela Violetta. Ma quella di fronte all'altra che ha gli occhi chiari, che aveva gli occhi chiari. Tu mi sta sempre di notte, non lo so. Ah, vai da tutti riconoscimi. Ma vai da Marco Codoro. No, vorrei sapere se è stata CB, chi era, chi non era. Una che batteva lì dove c'era San Giuseppe era un ex CB. Yeah, ne andava controllando. D'accordo. Un giorno ne viene in officina, a periodo invernale, questo tipo si avvicina, diciamo, l'inverno alle 5:30 per fare buio. Nonostante poco prima di chiudere l'officina, si avvicina, scusi, posso chiedere una formazione? Questo mi dica, ma serio, io sto cercando, e mi fa il gesto di tromba. E dicevo, scusi, chi sta cercando? E me lo ripete, mi scusi, non capisco. E faccio il segno con la mano. E io dico, ma dove, cosa vuoi? E voglio andare a Don. Mi viene a ridere, e dove posso andare? Ho detto, guarda, c'è il Galerante, poi se scende giù c'è per Daniela, ci sono un po'. Io sono sempre fermato a domandare informazioni. Ma dimmi, anche noi una volta eravamo vicino a Roma, stavamo ancora da Porto Torres e giriamo per andare verso città mercato, di sera a tardi, notte. Ci fermo a questo tipo, una macchina tutta sgangherata, tutta sbarbittata, ne scende questo qui con pantaloni fustagno e praticamente di quei cracchi che si usano in campagna. Questo che la macchina è targata a nuovo ci fa, andischi in dieste sapica niente. E ho detto, prenda niente. Integra, tu prenda niente, gusta guardare. Sì, ma molto bene se venivano questi qua, ma io sono un amico mio, poliziotto, e raccontava, loro li fermavano molte volte, ne venivano questi ragazzi da Ribaesi, se ne volavano una macchina per venire a Sassari a andare a donne. Ragazzi giovani, pastori, gente che lavoravano tutto il giorno, pulavano una macchina, la prima che capitava, e venivano a Sassari a trovare, perché nel Nuorese non ce ne sono di queste cose, sono molto nascoste, cioè non si vedono, è vergogna poi vedere, non gliele fanno stare in strada. E venivano a Sassari, tutti quei paesetti del Nuorese, cose del genere, altri carremi. Vabbè, tu non hai conosciuto a Torre Biggio. Torre Biggio era un cibi che lavorava al Muflone. Lavorava e quando usciva la sera c'era sempre questo tipo che lo aspettava e macchina lo seguiva. Un giorno ci ha chiamato la radio dicendo già così così, a più che ci volevo fa perché esco tardi a mezzanotte e mezzo al lavoro, l'una, dipende, era pizza io. Fatto sta che ci mettiamo d'accordo, andiamo tre macchine tutte col baracchino, macchina 1, macchina 2, macchina 3, tu adesso passi lì, se ti segue lo porti verso San Pietro, nelle campagne. Avevo fatto un posto di blocco, l'abbiamo bloccato, ho detto adesso paghi il biglietto. Perché l'ho seguito il mio amico, no, io sono un amico mio, adesso tu paghi il biglietto. Sei un guardone, sei un frocio, questo quello ti davvero più piccolo, c'è cagato sopra, ma vi prego non mi picchiate, ci ha fatto pena, io l'abbiamo ricordo. Adesso gli altri mancanti in giro, vai, vai. Allucinante, guarda. Sì, Sassari è una ciombra. Io mi ricordo una volta mi si è attaccato un vecchio stava sempre a guardare, e fumava vicino, poi ha detto, ma non si sarebbe meglio dietro, no? Nel posto dietro, che sperava in qualcosa, no? Era fastidioso, mi ricordo che avevo un giorno le palle molto girate, per colpa di questo. Poi alla fine c'era andato, perché non si usciva niente. E tu a Fofo conosciuto l'hai, Robert? A chi? Fofo. Fofo, sì. Ok. Quando c'era il cinema Rex ancora, praticamente Fofo era con Saccone. Saccone è quello della Fede. Un attimo, tutti i canti di Goza costano per te molto. Ma quello era malato però già, dai. Allora, no, ma Fofo era la parte, diciamo, positiva, quella negativa era Saccone che lo stava masturbando, è scattato tra il primo e il secondo tempo, se non ci si è lui, ci si è visto lui che con solo Saccone andandocene coso e Fofo con coso fuori, Antolo. Invece non so se la conoscete, che noi la chiamano la Bantelona, quella donna che secondo c'è la cavalcata, cosa del genere, tutta ganta attillata, cosa, avrà 65-70 anni, tutta truccata che fa schifo a vederla, con le calze a rette, che l'avevano beccata allo sciame che aveva fatto la coletta a un vecchietto, e questo vecchietto gli è venuto un infarto, un casotto è successo, infatti il giorno. E se tu la vedi, un giorno c'erano quelli dei Mamuntone, la cavalcata, a me domani se vengi la cavalcata la vedi, si ferma proprio per facile. È una cosa allucinante, come ci veste senza niente, proprio per farsi vedere. E c'erano i Mamuntones, erano fermi, si sono fermati, come tirare in vista, si sono bloccati, uno ha chiamato all'altro, e erano scioccati per vedere questa tipa, la conosci? Ma l'ho sentita nominare, però non ci ho preso chi c'è, io ne ho visto uno una volta che si è messo a ballare a Corte Santa Maria, che era tipo quella lì, che se io e mia moglie siamo rimasti secchi, ci vedo con tutte le puttane, si vede con questa minigonna. Scusate, ma è una tipa grande, fortemente truccata, con i capelli lunghi, minigonne, scollature per caso? Hai detto benissimo, quella di Vecchia, tutta piena di trucco da fare schifo, proprio scandalosa che non è proprio, ma proprio brutta brutta, e tutta la vedi perché ti colpisce, perché si veste tipo, quella è proprio le prostitute, quelle che stanno in strada, allucinate, fa delle cose fuori dal mondo, poi si mette, fa vedere i seni, le cose, le cosce, proprio non si mette nessun problema, lei è convinta di essere bella, però aveva 70 anni ed è un gesso, proprio brutto a vedersi, a parte tutto ci sono belle donne a quell'età ancora che piacevoli, ma chi è proprio un cesso da vedere, e lei tra la vedi sta rappante, si fa tutto a vedere intrigante. Applaente, dì la verità che ti piace Roberto. Ma la sabbia. E l'altra tu conosciuta là, la regina del battato, abitava nelle zone tue già. Lucia Maria, un nome abbastanza comune. Sì, la conosco, è allucinante. Andava sempre allo sciame a passeggiare. Tutta la gente lo incrociava e faceva battute, no? Allora su YouTube ce n'è una che è ripresa proprio in Piazza Santa Maria, lì dove c'è la fontana. Mi ha mandato il fratello del mio cognato questa fotografia di lei, proprio allo scialle, scandalosa al massimo, l'avevo pubblicata subito, l'avevo contata subito, ho detto se mi veniva via chiesa una casa, perché era subito hanno scritto commenti, io la conosco, io ho tutti i gatti, alla fine l'ho tolta, ho detto, o se mi denunzia. Cioè. Ma sono personaggi. Dicevano così, il poverino l'ho saputo non da molto, che era morto. Ma che cosa ha avuto il fatto? Qua già non te lo so dire, io l'ho conosciuto perché per l'Italia ci raccontava sempre la sua solita poesia, le canzoni eccetera, un giorno siccome io facevo anche delle feste, le davo delle cose del genere, giovane, alle punti avevamo la squadra di calcio, c'era un capanno, una cosa del genere, un giorno ho fatto una festa, lui è venuto due volte tra l'altro, l'ho avvistato, Gesù dice sì già ci vendo, e come si chiama? Ha detto Gesù mi raccomando, comportati bene, ma non sai quanto era, come si comportava con le ragazze, tu confidente, beh, tu cosa fai, un bel domandrellone. Ecco, Gesù, mi raccomando, perché l'ultima volta che sei venuto sono lamentato di troppo esagerato con le cose, con le avance. No, no, io sono fatto così, poi le donne se mi stanno addosso non è colpa mia, Satana le rende le fa. Ed è venuto in ombrello, per me si sa piedi ai punti, non me lo dava nessuno, perché tra non ce n'era in quel periodo. Adesso esatto, adesso con l'ombrello tutto lo vede ballando lui. E cantava rose rosse, non l'hai visto su YouTube? Già, ti sono presente quando c'era la corrida, e lui era andato anche a Corrado, che ha cantato Granada, non sai? E gli aveva detto che aveva stomato perché aveva cingessato. Ma poi l'ha fissato col pallone, lui passava tutti i giorni, quando c'era la mente, tutti i giorni, poi gli avevano fatto un paio di scarpe vecchie, le avevano regalato e gli hanno fatto il coso, il video, ma se lo vedi, su YouTube c'è ancora, quando fanno, non hai visto tu quei video che fanno i confronti Ronaldinho, Messi e cose del genere, è arrivato un video, è dentro la porta a palleggiare, allo stadio c'era il commento, Catania Resa, cercatelo su YouTube e ti vai, dove esiste. Sì, sì, già l'ho visto, fa allenamento, si mette a tirare in porta, sì, sì, l'ho visto, era un bel convinto, ma tutti i fratelli erano scemi così, lo sai, io conoscevo anche l'altro, quando andavo a fare la comunione, amene, diceva, e poi stava sempre attaccato alla Bibbia, era fissato con la Chiesa, ma proprio una fissazione, proprio, diciamo, di quelle forti. Giovanni sta dicendo quello che ti credeva, ma non ho visto un caffè, a me non ho visto un caffè. Tre, no? Tre macchine, uno dei quasi si è messo a masturbarsi sopra davanti alla finestra. Vabbè, io il fratello lo conoscevo di vista, ma c'hanno anche dei fratelli delle sorelle sane, ho sentito io qualcuno, vero? Non lo so, malgrado abitasse lì, via Pascoli, l'angolo via Nurra. Tutto quello stabile lì è loro, non sai di una che va via. Sì, sapevo che erano di buona famiglia. Guardate, mio cugino, acquisito, li conosceva tutti, tutta la famiglia per filo e per segno. Che forse lo conosci pure tu, mio cugino. E chi è? Ti dico il cognome, Torro. Tullio. E io. Cavolo, so cosa. A voglia. Ma tuo cugino è tu. E a voglia che ci conosciamo. Ti posso dire anche dove abitavo, se vuoi. E io, è stato una vita, ci conosciamo. Sì, sì, lo conosco bene. Ma che cosa fa? Roba di pulizia, roba di... Perché io venivo lì dalla pulizia. No, allora, ti ripeto, tu sei il mio cugino acquisito, è sposato con mia cugina di primo grado che lavora in pulizia, come civile, lui lavora all'ufficio tecnico. Ecco perché, sai perché? Perché noi un periodo, adesso no, ma quando eravamo più ragazzi fidanzati con mia moglie, frequentavamo lì al lido della pulizia, perché mio socio era ispettore di pulizia, quindi frequentavamo lì al lido, no? E molte volte ci siamo trovati con Tullio, però non ho mai avuto il coraggio, siamo fermati a parlare, cose, ma non gli ho mai chiesto come mai era lì, capito? No, perché mio cugino è una persona veramente in gamba. Sì, gente tranquilla. Gente tranquilla che lavora. C'era Tullio e poi l'altro, come si chiamava? Non mi viene l'altro, comunque c'era anche un fratello più grande. Uno dei fratelli sono. C'è cosa? Franco, poi chi c'era l'altro? L'altra sorella mi pare. Aspetta, Graziella, diciamo li conosco un po' tutti, qualcuno purtroppo se n'è andato. Franco, io conoscevo Franco, che ci aveva la moto, quando io ero ragazzo lui ci aveva una lambretta, mi pare, e io a Puglia, li conosco molto molto bene. Tu pensi che abitava a Sacrocuore, figurati tu se li conosco. E loro abitavano di lì. E lui abitava quel portone di fronte a via Giotto. E io. Immaginati. Abitava nel portone. persone di Tony Ruggori. Tony Ruggori lo chiamavano così perché si era comprato una maglietta con un cuore trafitto e il sangue che scendeva, e da giorno gli hanno messo Tony Ruggori. Che tarda giorno, Tony Ruggori. Ho visto, adesso cambiando il soprannome, un video, una fotografia, non un video. Tu l'hai sentito nominare Gianni la Regina? A voglia. Era amico del fratello di Gavrino, quello che è morto nell'incidente aereo di Cagliari. Il giorno prima mi sono visto e mi ha detto: devo prendere l'aereo per la prima volta, era militare a Cagliari. Alba decise di prendere l'aereo, grazie di rimasto. No, non lo sa, però sfortunato Burga. Vabbè, il giorno prima ci eravamo visti in piazza Castello noi. E mi ha detto: ma tu non dovevi rientrare. E mi ha detto: no, prendo l'aereo, così almeno provo l'emozione del volo. Cazzo, me la luce avanti. Chiata, già provato l'emozione, però non l'ha potuto raccontare. Vai Marco, riprendi. La Regina è un cantante francese, là, diciamo, in Francia. Non lo sono, non credo proprio già, perché ho visto il disco in quei mercatini dell'antiquariato, c'era il disco, c'era lui, la fotografia sua in bianco e nero, ma penso sia roba italiana, per non dire saltare su e puro. Allora, Gianni la Regina ha fatto successo in Francia, è un cantante sassarese, sì, e può darsi che abbia fatto anche qualche canzone sassarese, però Gianni la Regina ha fatto un grande successo in Francia. Tu pensa che il fratello me l'ha raccontato, stava con questa tipa tanti anni, e l'ha messa alla scelta, gli ha detto: o me o la musica. E lui ha scelto la musica. Bisogna vedere se c'era da guadagnare più con la musica, non lo so, se era un polpo di scoglio la muoio la viga. Ok, facciamo prendere a cosa, a Marco, che è in parcheggio. Avanti di Marco. Quella scandalosa lì. Alba. Quella che ti stai dicendo tu, che avevo tu io, Alba. Ehi, Alba, nome. Ma sei sicuro? Ti sento male, adesso ti sento disturbato, cosa hai toccato? No, c'è propagazione, roba. E comunque, ma tu lo conosci Gianni la Regina oppure è solo perché ha preso il disco? No, io vedevo sempre, no assolutamente, non credo di conoscere, di averlo conosciuto, e io vedevo sempre questa insegna: vogliamo Gianni la Regina al sindaco, e mi faceva sempre ridere, ma da tanti anni. L'altro giorno, un paio di settimane fa, ero uno di questi mercatini di cose che fanno in Piazza d'Italia, di roba antiquariato. Tra l'altro domani c'è, mi dice, se ti interessa, lo fanno all'emiciclo, in occasione della cavalcata. E ho visto proprio il disco Gianni la Regina al 45, mi ha detto: dove è Gianni la Regina? Ma non è un coso, una leggenda metropolitana, esiste veramente? Sì, sì, sì. Certo che lo chiamano la Regina perché è carino di viso. Il fratello era molto migliore, il fratello Gavrino era salva degli occhi, bellissimi, capelli lunghi, chiari, tutti mossi. Guarda, era un bel ragazzo veramente, dei lineamenti delicati, non perché, diciamo che è più difficile che un ragazzo dica ma un ragazzo che è bello, ecco, però era una bella, un bel ragazzo e bravo. Soprattutto stava facendo il militare in quel periodo e mi aveva detto appunto che prendeva l'aereo perché voleva provare l'emozione del volo, e non si è schiantato quell'aereo, che si è morto a viso, mi pare, per la cacchiluri importante anche. No, non ho mai sentito questa storia, l'ho saputo adesso. Ok, dai cosa Marco, ma se parliamo di personaggi storici di Sassari, cacchio, non stiamo tutta la sera, cosa ci darei a Peppina? Prendevo il pullman dalla stazione, non avevo lui che non abbia costa, chiedere a Giuseppe che andava bene da lui. Si era conosciuta, era bassa a bassa, l'avevo buttata dentro un cassonetto, l'avevo. Fino vicino alla vecchiaia, ma non era cattiva. Poi la parava, poverino, quello sì che l'hanno maltrattato, quello quando ero piccolino, anche io, con tutti i ragazzi, parava da lontano, ci mettevamo, quello con le orecchie grandi. Io me lo ricordo, una volta abbiamo trovato in treno, no? E andavamo a farci il bagno di nascosto di mamma, andavamo a Porto Torre, ci facevamo il bagno in mutande, poi le mettevamo a finestre ad asciugare, no? Ci mettevamo i pantaloni senza mutande e le mettevamo ad asciugare, e cazzo aveva tutta una giusta parava con i costumini bagnati, soglione, ti faccio arrestare. E poi se ti pigliava mi era amaro, mi cazzo, qualcuno dei ragazzi è riuscito a cantare ogni giorno forte della scusa, lasciamo stare, eravamo tutti incontro, lo si spingeva e te lo mollava, ma se ti aguantava era amaro, mi ti iniziava a dare ciaffotti. Il naso lungo, le orecchie erano a baraffanco. Cosa, ma? Questo è un discorso. Portavo magari gente che si contraccasse, quello in tassi, il brutto passo, il sorcio, tutti altri. Questo ragazzo non me lo ricordo, forse perché sono molto tempo fa. Gigi Brancati. Ehi, quello lì, diceva già il pantalone in fronte ai magistrati. Ehi, anche in questa castella andava. Cantava un'ora sola più vorrei per farne 4, 5 o 6 alle ragazze. Oppure anche quello conosciamo. Però quello è recente. Per esempio Maria La Falca credo di averlo visto solo una volta in campo. Non lo ricordo solo più. Era pelato. No. Ma era figlio, si credeva figlio. No, era attivo. Giardiniere. Gianni. Dimmi. E personaggi famosi, chiaramente a Macista, hai conosciuto? A Franco e a Voglia, ci ha portato anche a casa sua. Lo stesso personaggi che sono scomparsi, ma fammi venire in mente il sentimento tra padre, vabbè tra padre era un pochettino più antico, però Macista ha fatto la storia a Sassari. L'abbiamo nominato Coso, Cossetto, poi c'era Peppino la Vecchiaia, poi aspetta, Saccone, Saccone non so se l'hai mai visto Antenna 1, quando lo intervistavano dicevano a cantare i film western e dire qualche personaggio di questi attori, era un piscio. Sì, conosceva tutti gli attori che avevano fatto il film, gli diceva tutti quanti il film, ve lo ricordo. Ma hanno messo John Vine, Frank Gabla, tu c'è un nome così per te, puoi fare la capotto. Ehi, però se ne intendeva bene, diciamo bene, anche se non sapeva pronunciare i nomi, però lo sapeva. Poi vediamo. Faceva la musichetta, c'era la prendeva in giro quello di Antenna 1, Lucio Cuni, che era un piscio. Scherza, anche bisogna pulire, lo faceva a pezzettini, e quello era convinta. Io adesso mi parli, lei gli dava proprio l'intervista fatta bene come un personaggio pubblico. Andava a San Giuseppe, anche dell'elemosina. Io mi ricordo quando frequentavo San Giuseppe, perché c'era una ragazza lì, andava anche dell'elemosina. Sì, ma ce ne sono tante, adesso neanche mi vengono tutti in mente, ma ne conoscevamo tantissimi. Poi non parliamo di, tornando al discorso delle donne di strada, facciamo qualche nome di quella guai. È Platamona, te lo ricordi? Platamona era un barbone. Platamona era un ladro, quello ladruncolo era Platamona. No, c'era anche il barbone, Platamona, chi si chiama incidente sotto al Cotterosello. No, quello non l'ho conosciuto. L'unico Platamona che era famoso a Sassari, che era nella zona di San Donato, era Platamona, non mi ricordo come si chiama di nome. È morto tra l'altro questo ragazzo perché poi è finito male, per droga, overdose o cosa del genere. Però da ladro, da piccolino proprio, lo conosco bene perché me ne parlava poi tra l'altro sempre mia cugina, con la persona che abbiamo nato prima, sposata con quello che conosci tu, che abitava, loro ci avevano, vivevano dentro la scuola, perché mio zio, il padre di questa, la mia cugina era bidello di dentro, e c'aveva la casa dentro la scuola di San Donato. E dice ogni tanto entrava, burava, però dice non era cattivo, e poi lo diceva, stai attento, alla fine non rubava mai niente, dice. Però vicino, mamma mia. Era un bell'altro, io non lo ricordo. A morte portavo. diceva diversi anni fa, tanti anni fa. Non lo sapeva lui. No, ma c'era un altro barbone che chiamavano Trattamonte. Andava a dormire sotto una colonna del ponte dove c'era un buco, lui si aveva messo della paglia dentro questa colonna del ponte Rosello. Passano da via Sol, sono scendibili, c'era una colonna che era bucata, c'era un buco grande che deve essere qualcuno gli ha fatto, era vuota all'interno, e fatto sta che lui dormiva lì dentro, si aveva fatto un giaciglio con della paglia e dormiva lì, gli hanno messo fuoco. Non lo so, a te ricordi lo stesso che non l'ho più visto, però non era mancante, anzi tutt'altro. Rinuncio alla Cina, conosciuto? No, questo qui non me lo ricordo. Una montagna era quell'uomo, ogni forza, una cosa allucinante, si vedeva dai cudi, mamma mia, era, a parte che era, senta, sarà stato, non penso meno di 1,85 m, però era, dico muscoli, perché era grosso, grasso, burro, ma era, pesava 150 kg, era una forza della natura, ossia che lo toccava anche lui, lui andava in giro, sempre quando veniva a fare l'attore, era uno di quelli che non si è mai tirato indietro, con tutta quella greffa, Lubrico, non so se l'hai sentito nominare. Ah, ho capito chi era, Lubrico, Tagliarossi, sì. Mamma mia, e che gente è? Picchiatori. Ciucciù. Gente che imballava un bel. Quindi non avrebbe a che fare mai. Ah no, io invece ho avuto a che fare, vi racconto una storia, una volta la buon'anima di un CP che adesso non voglio nominare, che adesso è morto, e faceva praticamente la guardia giurata, e stavamo andando a pescare e vediamo questa macchina che sta buttando dei volantini, ma io li fermiamo questi qui che non possono buttare i volantini della macchina, anche se quell'altro li ferma. Lei lo sa che non può buttare, cate non ve la ristretto, taglia usi, cicciolino, barraccocco, tutti chi si, i cudi, e manco pare con gli sciari, a me, si era via di cudi. E chi era questo cicciolino? Tanto là, ma io conosco pure di nome. Bravo, ciao. No, ma non era di San Giovanni. No, io non ho detto di San Giovanni, facevo la guardia giurata, ho detto. Ciao Gianni. Quello lì tu sei preso da Nino. No, Nino è morto, me lo sai. Uno era Tore, l'altro è Nino. Sì. Tore di San Giovanni, siamo che avevamo portato a qualcosa. Gianni. Io a Pinuccio da Cina l'ho vista uno, a questo tipo eravamo alla Torres, c'era una partita della Torres, non mi ricordo, e eravamo in curva, allora vicino a me, e c'era questo ragazzotto, ci avrà avuto, sai che Pinuccio ci avesse avuto 50 anni, e questo qua ci avrà avuto 25 anni, di quei fighetti, tutti quelli prepotenti, russi, e questo iniziava a fare lo splendido, facendo prepotente con tutti, e c'era su un paio di gradoni più grandi, c'era questo Pinuccio da Cina. Era Ito, inizia a rompere le scatole della gente, piglia una bottiglia e la sbatte a terra, rompe la bottiglia e le fa, finisci la, le bottiglie sono pericolose, ci sono le... E Ito prende la chi tu visi? Siete cudi. Questo fai conto, un uomo enorme, peserà 150 kg, si è buttato due gradini sopra, gli è saltato addosso, ha iniziato a cudirla a colpi a capo, tipo quando ti hanno colpi di matta a testa, gli è cambiato colore della faccia, io dico, probabilmente ti ha fatto qualche trauma cranio, gli ha dato questa susso a pugni a testa, già, alla fine la mullata che non si muoveva più, ti sapete se ho preso che bottiglia, quello non è bottiglia. Che minchia ci voleva. È come la volta che una persona che conosco io, che era di chi si chiude a un bel, c'era dal balcone e ha visto questo qua che stava picchiando un vecchio. Ha detto, ma non finisci che può essere il tuo nonno, quello lì. Questo che va a fare, lui si è riuscito da casa. c'erano uno di quegli alberi lì piantati da poco, presente quelle, quei trucchi che li mettono per mantenerli, mi ha attaccato uno di quei trucchi che ha detto di andare su San Ruggio a questo ragazzo che guardava sa dentro la musica. Fatene bene, così state attenti. Purtroppo questi ragazzi l'ultima volta li vedi, io ho visto una scena di uno, non ti faccio nome, non l'ho conosciuto perché è ancora vivo, famosissimo, non di adesso, è grande, perché questo adesso ci avrà tanti anni, buoni, abbondanti, forse no, quest'anno adesso ne ha di più di 70, però all'epoca ci avrà avuto sui 65-68 anni, questo stava camminando in macchina con la moglie, tranquillo, ma piano piano, nel pezzettino di via Cavour, all'incrocio con via Carlo Alberto, stava camminando, proprio ma appunto all'acceleratore, io di lì ho assistito tutta la scena, la piedi. E passano questi ragazzi, attraversano di colpo e a Giumano non li tocca, ma non li ha neanche toccati perché ha patente un panfra, se ne pesa brutto, ma me ne dicono di tutti i colori, e va proprio offendendo, ma la tigre della se pigliano e li partono questi ragazzi, intrenano già, li partono con la moglie dentro, la moglie strillando, siccome io conoscevo il tipo, ho detto mamma mia, riescono a partirli nella sconfinata, li partono, lo buttano a terra a quest'uomo e iniziano a picchiarlo. A picchiarlo nel senso, Tito siccome uno che picchiava forte, la sacra era famosissimo, è riuscito a sollevarsi, ha preso già una di quelle transenne, c'è presente quando c'è la cavalcata, tirava fissi ghidi, le ha tirato la trans, se li biglia la ammazza. Questa è una forza della natura, a parte che ha vissuto in mezzo alle risse tutta la vita, se capita Giulio Rollaro, ne parliamo e ti fai dire di questa persona. Quanto picchiava, era uno dei più conosciuti come picchiatore, nel senso era di quelli che doveva afferrarsi e non temeva nessuno. E ti sei detto, se li prende con quelli, con la forza della disperazione si è sollevato, ha preso questa cosa, questa transenna, correndo, li ha perseguitati e li ha tirati, se li prende li ammazza. Io come ho visto una volta un concerto, un poliziotto ha preso, allora praticamente stavano, c'era un poliziotto solo al cancello, era una greca di ragazzi, l'ho cominciato a salire sul cancello per saltare, no? Cazzo, questo poliziotto ha preso il cancello, io, una cosa qua, io incredibile, non avevo mai visto una cosa del genere, ha pigliato il cancello perché loro lo stavano scuotendo per aprirlo, no? E l'hanno praticamente sradicato, non sradicato, forse tolto da dalle cerniere, cosa ne so, il cancello stava cadendo, questo poliziotto prende il cancello, cazzo, di lo tira addosso, cazzo, sono tutti scappati, cazzo, non ha bigliato di chi c'era, ne l'ha tirato addosso. Non lo so poi quando c'hai la disperazione molte volte, ma quest'uomo ti posso garantire già, se capita Giulio ti fa dire chi è, adesso è anziano, quindi, ma quando era giovane, erano di quelli, è vissuto in mezzo alle risse del centro storico, era, uno dice, mio padre che l'ha conosciuto dice, non intendeva i colpi, non perché era forte, cioè veloce, altro, dice, non sentiva i colpi, tu di budi, budi, canto di biardia, poi ti partiva lui, dice, era una mazza da baseball, era una cosa, l'ex pugile, dice, una persona fuori dal mondo, perché abituato il padre, dice, lo picchiava con la caldarella in ferro il padre, lo racconta sempre mio padre, dice, ha vissuto picchiato perché il padre era un po' buono, diceva, Caimando era sempre di quelli ribelli, lo picchiava con la caldarella dei muratori in ferro, a testa, dice, ehi, quale, t'ammazzo. Ma Sassa dove è Lubianco? Ti sto dicendo, a Sassari era famosissimo per quello, per quel motivo lì, proprio che era una forza. E' capitato di questi due ragazzotti, facendo due, tre erano, catagiturati, ma meno male, ho detto siete riusciti, sono riusciti a... Poi è arrivato un altro che conosco, un amico, molto più giovane di lui, appena l'ha visto, cosa effendi Genovese, cosa effendi? Perché si è spaventato, sa, se li prendeva, se riusciva a guardarli, ho detto quello li ammazza, aveva sempre la morte. Yeah. Ma non riesco a capire chi sia, ma probabilmente lo conoscono. No, vabbè, non è della generazione nostra, è molto, molto più grande già, si chiama Ettore comunque di nome. E c'ha un soprannome, non lo dico perché preferisco non dirlo, non pubblicizzarlo. E vabbè, non mi dice nulla, però sì, non lo conosco, allora, forse non è della mia era. No, già, sto parlando di gente che ha detto che avrà 75 anni quest'uomo, io sto parlando di 15 anni fa ho assistito a questa scena, se c'ha 75 adesso, all'epoca ne avrà avuto la 60. E dai, chi è? Eh? E dai, chi è? No, ma no, non mi va il fatto, dai, facciamo, non mi piace dirlo. certo so che c'è gente che sta ascoltando che lo conosce, non mi piace, perché c'è, voi non lo sapete, ma c'è gente che ci ascolta, gente grande in questo momento, gente molto più grande di noi, preferisco non dire. Ehi, non lo sappiamo, sappiamo che le radici di buco sono sempre avanti, ma ci sentiamo male, stiamo rivangando un po' di passato. Sì, ma io so che c'è gente che lo conosce molto bene, a questa persona che sta ascoltando, gente grande, dell'epoca più o meno sua, e magari glielo potrebbe riferire, non mi piace. Vabbè, e c'è problema. Quello che aveva avuto il picchiatore a Sassa di Oiui. E io una volta mi sono proprio imbattuto in uno di questi. A me una volta mi stavo rompendo le palle di un orologio, una volta, senza motivo, grazie. Ma cosa c'è fino a lui? Sì, facevo tutto quello in rotta, non si parla di fare giorni. Ma non è che mi conoscesse tanto. Sono così in un bar, stavo cominciando a fare la stravaganza e il barista però gli ha detto che cose di stare tranquillo che ero cliente lì. La mostra già ce l'ha tutto, comunque lo conosco da tantissimi anni, è il cognato di un nostro dipendente, di uno che lavorava da noi, che ha lavorato tanti anni, ma anche lui la mostra sua l'ha trovata uno con la bissura e l'ha messo in riga, tutti l'hanno trovata a Torre Barracocco, l'ha trovata a Taizo, ora c'è sempre la scarpa tua, di tua misura la trovi sempre. Prima o poi ci sarà. Comunque Tino Luglio era uno di quelli che picchiava e picchia ancora forte, si è calmato molto perché lui ha avuto troppe denunce, alla fine per questione di sport io l'ho conosciuto perché veniva sempre da noi, quando era in mezzo a Faratura era rubrimo, però ultimamente si era calmato. Oh, c'ha un fisico, una montagna. È anche abbastanza complicato. Sì, gli aveva sparato quel tipo con una C-35. E meno male che non ha passato l'osso, se no sarebbe morto. Sì, già lo so, una persona normale sarebbe morto. Lui, buon per lui, ne ha guarda. Ma quello lì ne ha visto di tutti colori, sono di quelle gente che vanno a cercarsi le situazioni. Poi l'hanno avvisato, la prossima che fai ti paghi tutti il resto con gli interessi. Tu lo conosci? No, no. A Rotten che non vado, non ho mai frequentato Rotten. Qualche volta che c'erano i miei figli, mi sono andato a prendere la mia figlia, ma proprio dentro non sono mai andato. Noi nel 90 ci abbiamo lavorato in Cambusa, che divertimento. Oh, ma chi è che l'aveva sparato? Uno che era, dice, stato nella legione straniera, un tipo fortissimo peraltro. Ma c'è da immaginare, se tu pensi forse che anche voi, se uno toglie un'arma ti spara, si fotti. Oh, questo figlio sparato, io sapevo che era un bel forte. Dice che piegava il fallo della segnaletica, se ti fini. Cos'era? Va. Una cosa del genere. E poi, infatti c'era stata quella storiaccia, gli è andata bene a quello, là. Gli è andata ben bene. Perché Giampaolo, quello che hanno ammazzato da poco, lo conoscevate? Giampaolo, quello che gli hanno spaccato la testa, e lo stesso faceva il buttafuori, una montagna enorme, che è uscito in giornale 5-6 mesi fa, che è stato in coma per un paio di settimane e poi è morto. No, da che cosa? Andriga era successo, che l'hanno, dice che ne è caduto dalle scale, ma si dice che l'hanno caduto 4-5. È come una volta che ero con mio cognato al centro commerciale, in casa di una greffa, stava picchiando a questo qui, gli sbatteva la faccia a terra, roba, gli abbattici tutti i denti. Cazzo, ho visto così, mi ha detto a mio cognato, c'erano quei telefoni pubblici, tu chiama il 113, io chiamo l'ambulanza. Cazzo, ho chiamato l'ambulanza, ho detto guardate che c'è l'ambulanza che i carabinieri prima hanno detto, ma non sappiamo dove è questo e quell'altro. Noi c'è il 111, non sappiamo dove è, e allora mio cognato gli ha detto sono l'assessore che non dico chi. Cazzo, sono arrivati 5 minuti, fatto sta che quando sono arrivati c'era morto il coso, no, e lui ha detto che non l'avevano picchiato, che era caduto, capito? Cazzo, te l'avevo spaccato, senza denti davanti, tutto maciullato in faccia. chiaro, insomma, a volte poi sono tanto psicodipendente e cose del genere, magari sono per attenti, se no lo rischiano la vita, ma c'è quella gente senza guri, io ne ho visto lo stesso risse, mamma mia, a un militare un giorno aveva fatto il sangue per l'Italia, una cosa allucinante, gente balorda, che poi da solo, finché ti aggiunti uno contro uno io lo posso capire, ma io ho visto delle scene in battaglia alla sconfidata picchiando, solo perché questo era militare, gli hanno detto cosa, quello si è mezzo girato e li sono partiti. Ma c'erano gente, in quel periodo adesso non se ne vedono più, ma negli anni 80 ne vedevi tutti i giorni in Piazza d'Italia, uniti per una rissa. Una volta c'era uno, come convinto, passava da fare schiaffi alla gente senza motivo, c'era questa greffa di ragazzi che tra cui c'era uno che sembrava, vabbè, mezzo soggetto, sai, quello con gli occhiali grossi, preso di mira, capito? Con una greffa di ragazzi va e non tira lo schiaffo a quello lì, tira lo schiaffo a un suo amico. Cazzo, va quello con gli occhiali, mantienimi gli occhiali, cazzo, ti ricudo una suissa, ma era così veloce picchiando questo che aveva gli occhiali grossi della greffa. Allora io dico che si lamentava, questa cardiograma, le ha fatto cantare mamma non piangere. Io ho visto una scena, non so se riconosci i fratelli Calimero, sentiti nominare. Sì. Io uno, il piccolo, lo conoscevo molto bene, amico di mio fratello in Gambissima, però i fratelli erano un po' così, dai, a parlare. Un giorno c'era una pallamona, era venuto in prepotenza nel bar della torretta, hai visto il badilino, io tutti i culo rompendo le capole a tutti, tirando bicchieri, non c'era nessuno che, noi eravamo molto più giovani, noi ragazzini, però eravamo molto più grandi. Non c'era nessuno che interveniva perché li temeva, chiunque si metteva in me, loro stavano cercando uno a farrarsi, cioè che non capitano, non so se lo conosci, questo di Ottava, questo ha detto mamma mia, cacchio, e non toccano a questo. Questo a Ottava era famosissimo, che era a parte una velocità tuffando, su una forza della natura. Cacchio, era Hutu, Vita, Sussa, cioè, ma Sussa a tutti e due, mi da solo, li ha pestati in sangue. Lui poi si guardava la maglietta, era tutto pieno di sangue. E veniva col vespone, lui ci andava a notte col vespone, e ha visto il sangue e pensava che fosse sangue suo, e fa piglia la moto, faccia la mano, dimmi che sono dal netto, ma ne cutto, se ne hai fatto il sangue, lui era convinto che l'avessero picchiato perché vedeva il sangue, era convinto il sangue, ed era lo sangue di Ghitti, cazzo, prendi la moto mia, digli che ti ho mandato io, portali qua, aiutami a picchiare, e dammi che li hai fatti il sangue, e lui talmente era abbigliato da cosa, non si è abbigliato che li aveva picchiati. Bellissimo, dicendo cazzo te lo chiedo per favore vai, siccome lo fa, adesso non mi ricordo se si chiama Battuni, non so cosa, ma era un tipo, una cosa da vedere quanto era veloce picchiare, ma veloce e forte, cazzo, ma l'ha avuto una giusta, li ha fatti in sangue, poi è entrato nel coso, nel bagno, a lavarsi, si è visto tutto bagnato di sangue, e lui ha convinto che era sangue suo dalla faccia, cosa del genere, perché si passava le mani in faccia e ce l'aveva sporche di sangue, però era lo sangue di Ghitti. Io, e così vuole, quando devono trovare sempre penetrare lo scatto. Sono contento, quando li vedono molte volte così impari la prossima volta. Mi ricordo questo di Usula, noi una volta avevamo riscattato una giusta forte i vostri. E questo qui ha picchiato uno che conoscevo io, questa greffa di Usula, la giudizio, è andato questa sussa. Beh, non ti preoccupare, sono turra di Assassari, alla giostra, quando un giorno sono messi qua la brigata, catalani, cuto, una sussa, che ti ha detto, visto, che ti ha ciappato tanto tu, è andato questa sussa, io per te potevo anche intervenire, erano amici miei, quelli, ho fatto, così impari la prossima volta. E prima anche nelle discoteche, ti facevano il cerchio, se ti sbloccavi qualche ragazzo, ti facevano il cerchio nei paesi, e ti dicevano che era la cugina per affarrarsi e cosa, era tutto un casino. Io mi avevo fatto un bel giro a Ploaghe, alla Dama di Curio. E la sua prima vista, senti come ti muovi, oh, anche adesso magari, però... Beh, era molto peggio, adesso non c'è più il campanarismo che c'era prima, quando veniva gli sassaresi, scendeva a Porto Torres o a Castelsardo o a qualunque paese, dovevi stare attento, adesso è tutto diverso, è cambiato tutto. Ok, vabbè signori, io vi devo lasciare che sono le 23, in barriera 38, se non sbaglio l'orario, non è che sia stanchissimo, però mi voglio un po' riposare che sono un po' di giorni con sono arretrato, vi saluto a tutti e due, cuoretti da parte mia, aspetta i salutini, ciao Gianni, ciao Marco e dentro gli amici sul canale 10 in ascolto, ciao ciao. Ciao Robert, infatti mi meravigliava che ci si sta tenendo stasera, io posso farlo perché sono solo, mia moglie lavoro, quindi posso sempre stare tranquillamente qua. C'è un Marcolino vicino, ma è dormito, e quindi posso trattenermi ancora un po'. Ok, ciao Roberto, alla prossima e buonanotte. Ma va avanti Marco, cosa stai facendo di bello, di bello, di bello? No, così sono un po' coricato, sono anche vicino. Piano piano perdo quota, diciamo. Comunque delle storie da sentire, mamma mia. E non importa, ce n'è una, ce n'era una. Adesso sta un po' cambiando la cosa, no? Non so perché. Se è meglio, meglio che cambia. E prima c'era più, c'erano più salette, per dire. Prima le greffe si facevano le salette da ballo. E andava, era la circuito chiuso, andavano solo la greffa e quelli della greffa e basta, non facevano entrare gli altri. Infatti noi ce l'avevano sfasciata perché non avevano fatto entrare dei delinquenti e ce l'hanno cagata e sfasciata. Oh, ah, così si faceva, non lo sapevo. Io se frequentavo niente andavo in discoteca direttamente, salette non ne avevo mai frequentato. No, perché quei tempi, piccoli non c'erano più forse. Ogni greffa frequentava una sala, una saletta. E che cosa erano praticamente? Erano salette da ballo, erano degli scantinati, delle cose fatte a sala da ballo, c'è il DJ, la cabina, con DJ, eccetera, eccetera, fatta proprio tipo discoteca. E facevamo i sedili per sedirsi, tutto quanto, tranne che non c'era il bar, vabbè. C'era qualche cosa magari di fresco per quelli della greffa, e ogni tanto veniva qualcuno a bussare per vedere se lo facevamo entrare, invece erano selezionate le persone, non facevano entrare nessuno, una volta sono venuti due delinquenti, noi li abbiamo fatti entrare e ci hanno fatto il dispetto. Ma almeno no, li avete riempiti di botte? No, sono venuti quando non ce l'avevamo, ci hanno rubato stereo, trici psichedeliche, cervello elettronico, tutto qua. Così è, ma no, infatti bisognerebbe fare il circolo chiuso, perché infatti bastata una volta erano parafregati. Poi ce n'era una che era una bella, che rimaneva, era tutta vetrata e fatta, rimaneva un piccolo che cosa trinta, era un bel grande, e lì c'erano però buttafuori di quelli nominati, quelli proprio che picchiava. Era enorme questa qua, si pagava, c'era il posto per mettere, diciamo, i vestiti, tutto quanto, il bar, tutto quanto, era un bel grande. E ci stavamo di gente, ma c'era gente che andava a ballare lì, e li potevi entrare, pagavo il biglietto e entravo. Però era più organizzata, almeno c'era il servizio d'ordine. Sì, era tipo discoteca, diciamo che era a livello di discoteca. C'era buttafuori, c'era guardaroba, c'era tutto qua. E anche lì qualche volta già ci sono andato a ballare. Andavo a provare, un po' tutte le girate discoteche intorno a Sassari, diciamo, al Ciocchi, a Stintino d'estate, questo è il bello di vita. Io ben poche ne conosco. Io non sono andato mai al di là del Rotan, del Biblos, magari anche quell'altro, a Ursi, proprio a Ursi poche volte. E a Ursi allora c'è la scala Luglia, quale andare a Ursi? L'aeroporto 84. Lo Star. L'aeroporto 84 è dal padre di mio vicino. Oh, così. No, io solo al posto, con lo Star. Non era male, mi piaceva come posto. E poi c'è la scala Luglia. La scala Luglia te lo riconosciuto. Mai stato. Anche quella era bella, adesso hanno fatto la pizzeria, poi hanno fatto altre cose. E che quella era bella. A Usini, a Castelsardo la Ventola. Io ultimamente l'ultima volta che ci sono andato in discoteca era il 2003, mi pare, discoteca proprio, però non reggevo più, troppo caldo, troppo rumore, troppo gente, troppo tutto, cioè forse proprio aveva l'ansia, l'ansia, no, ansia no, però troppo rumore, il caldo, cioè fisicamente mi stressava, mi stancava. Non è più abituato, invece. No, io l'ultima volta che sono andato con un amico e io chiediamo ascoltarci un po' di musica. Io facciamo quattro salti, se c'è sempre la musica, la discoteca, come dico io, invece di quella musica di tanto che non ha nessun ritmo. E siamo andati in bagno, cazzo, per fortuna siamo andati. C'erano due cinesi, due ragazze cinesi, tutti e due in terra, collassate, cazzo, abbiamo fatto il massaggio cardiaco, tutti e due avevano chiamato l'ambulanza della rinunciata. E poi siamo ritornati in pista, c'erano questi cinesi tutti sconvolti, si vedevano 3 km di distanza che avevano preso qualche cosa, acido o cose del genere. No, così, anche i cinesi si divertono adesso, e le cinesi anche. E allora, e anche cosa so, meglio di noi, so, mangiano i vegani. Beh, se mangiano i vegani sono peggio di noi. Appunto, no. Quei ciucciù poi che sono così belli, quei cani, un peccato ammazzato. Ma poi ho visto un filmato di come trattano cani e gatti. Uno schifo, messi in gabbia strette strette, praticamente fatte con le cuffie di ferro, che il cane non riesce nemmeno a muoversi. Poi papà vi ho visto spogliando animali vivi, uno schifo, guarda, mi stava venendo il vomito. Ho visto anche io su internet dei camion che arrivavano con gli autotreni pieni di cani, non andavano con questa specie di pinza lunga che ci avevano, li prendevano per il collo, una pinza enorme di quelle allungabili, quelle fatte apposta, li prendevano per il collo, i cani li gridavano, gli davano colpi di bastone, poi li mettevano il piede sopra il collo e li scuoiavano. Ma è uno schifo, infatti sono dei selvaggi. Boh, proprio mi ha disturbato quel video. Oh, vabbè che se conti che la stessa fine la fanno fare all'agnello da noi, al maiale, anche quelli non è che muoiano bene bene. No, ti contraddico qua. Non si può usare violenza sull'animale che si sta macellando. Guarda che da noi un macellaio solo perché si è provato a dare un colpo di bastone a una mucca che non voleva scendere dal camion, che si stava ribellando perché aveva capito cosa gli volevano fare, l'hanno espulso dal mattatoio per 2 mesi, il veterinario. Però il risultato alla fine è lo stesso, cioè l'agnello lo sgozzano, gli fanno scendere il sangue, insomma. Alla fine anche noi li ammazziamo in modo truculento. Non li prendiamo a colpi di bastone, io per lavoro li ho visti fare, perché io li portavo il bestiame vivo, poi andavo con l'altro camion e prendevo quello macellato col camion figo. E li ho visti macellando sia vitelli, sia i maiali, sia i porcetti, tutti. Li danno una scossa prima, li tramortiscono e poi li... praticamente no, non sento nessun dolore perché li tramortiscono con una scossa e poi li mettono a coltello in gola. Boh, fatto io. È roba che io non potrei mai fare, ho il cuore troppo tenero, non mi voglio ammazzare nemmeno un uccellino, figure. No, ma manco io, a me mi facevano un'impressione quando li vedevo, purtroppo dovevo farlo per lavoro, portarli e riportarli molti in macelleria. Ho capito, sì, brutto lavoro questo. D'altronde se vogliamo mangiare carne qualcuno lo deve pur fare. Non lo faccio più perché la carne adesso la compriamo già macellata. Ma già, io sto perdendo davvero forza, sto cominciando a essere suonato su chi me l'ha. Tu vedo che a mezzanotte meno un quarto è passato, quasi quasi comincio. Ah, conta che io devo cenare, non ho cenato ancora. Sì, te ne sei dimenticato, io non me ne sei dimenticato, ho scelto il buco nello zoo. Sì, poi noi ceniamo un pochino tardi, non ceniamo alle 9 perché sennò poi mi viene di nuovo fame, devo cenare due volte, capito? Solito ceniamo alle 10, così 10 e mezzo. E oggi mi è passato di mente, così ero in radio, finalmente è entrato qualcuno, di solito non c'è mai nessuno, e poi scommetto mi piacciono tutti all'ascolto. Però se nessuno comincia magari a prendere la portante o chiamare, nessuno, capito, entra. Vabbè, è comodo così, no? Fare altre cose, ascoltare gli altri, lui ti distrae. Vabbè, che vuoi fare? Vabbè, dai Marco, se hai sonno, buonanotte, ci sentiamo e buona giornata per domani, dai. Ciao, buonanotte. Ok, già, buonanotte. E ci sentiamo nel prossimo. Poi come il tempo migliora, appena sento Pomponio, vi chiedo se piazziamo l'antenna, così finalmente ho finito di usare questi antennini termini, derivare il basso, eccetera eccetera. Infatti, no, ma così a me mi arriva bene, a me non c'è nessun problema. E la modulazione mi interessa molto. La modulazione, sto usando il preamplificato Alan F10. No, non si sente l'amplificazione, però la è buona, è buona. L'amplificazione, dico la verità, non ce ne sente, non ne sento perlomeno io. Conta che sto parlando un pochino piano adesso, ad esempio, aspetta. Ecco, se parlo normale è così, vedi un po' come va. E adesso è un po' più forte. No, ma non si sente bene, è chiaro. Dove l'hai comprato le FD? Sì, già, non te lo so dire. Questo qua è degli anni 80. Degli anni 80, e forse ce l'avevano regalato o comprato di seconda mano, non mi ricordo. E va con la batteria da 9 volt. E ripeto, questo è l'Intec FM548 SX che ho trovato ieri, mi pare. Ieri o l'altro ieri l'ho trovato. Era chiuso dentro un borsone dell'ACI, quelli che davano il regalo una volta, assieme all'altro portatile. Te lo ricordi il Maxcom 7? L'8 mi ricordo, ma qual è quello portatile che c'ha il tasto rosso al centro? K, Maxcom 7 della Amazon, presenta qui la valigetta, il portatile, la custodia con portabatterie, la base magnetica con l'antennino e la presa CD-SIGA, il tutto completo era. Ce l'ho anche io, ce l'ho quello della Intec io. E sarebbe l'SOS, dai, l'apparato SOS è quello per il soccorso. È largo, rimane largo come portatile, non rimane stretto come gli altri, ma rimane più largo. È in plastica un bianco sporco. Questo è ingiallito col tempo, prima era un po' più bianco panna, adesso è ingiallito in più. È rimasto fermo 16 o 17 anni, pensa, e funziona ancora. L'ho messo sotto tensione, l'ho lasciato un po' acceso e esce veramente bene, di modulazione esce bene. Addirittura noi già l'abbiamo comprato nell'86, assieme, diciamo, non assieme, era nel periodo in cui abbiamo comprato anche le FM500S. Vabbè, gli apparati non ti mancano, sono tutti omologati poi. Non ti mancano, mettiti l'antenna adesso, però io ti dico una cosa, mettiti un palo nuovo direttamente quando non fai farlo bene il lavoro, un palo nuovo con le staffe, tutto quanto fatto bene, i tiranti, perché i lavori fatti così, un po' la più su, escono male pure. Ah, un palo nuovo, comunque il palo è buono, è integro. Le viti sono venute via subito, senza fare sforzo. In realtà il palo è utilizzabile. Le staffe ci sono già, belle robuste. Ho provato a muovere il palo, non si muove. Già avevamo così, il cavo è buono, ho preso l'RG213, che è bello grosso, robusto. Invece l'RG58 che c'era una volta era uno schifo. Poi c'era roba di 40 metri, 50 metri, quindi perdeva tutto il segnale. Io come esco? Come esci? E io. Bene, bene, radio 5, buona, abbastanza forte anche. Io ho l'RG58 già da 12 anni e non l'ho mai cambiato. Non vuol dire, forse le carte più lunghe sono più pesano, questo è vero, però l'RG58, secondo quelli primi, se prendi l'RG58U come ce l'ho io, va benissimo. Allora, l'RG58U qual è? Quello con il rame, con la carta in rame o con la carta in alluminio? Alluminio. È come quello che avevo io. Però, sai, ti spiego, nel 92, prima io ero in Viale Mameli, poi sono venuto in Vianina. Nel 92, quando siamo venuti, abbiamo messo sul palo una boomerang di 2,75 m. E ci avevamo roba di 50 metri di cavo di RG58, quindi già l'antenna rende poco. Se in più metti tutto quel cavo avevo veri perdite, infatti era uno schifo, i segnali erano abbastanza bassi, io uscivo basso, era come peggio che essere in macchina, lo sai. Io la boomerang l'ho sempre odiata, non mi è mai piaciuta come antenna, anche perché non riesci mai a regolare bene le stazionarie, è un casino con l'antenna. Io l'ho avuta nuova, non sono mai riuscito a regolare le stazionarie, meno di due non le regolavo. Allora, quella che ho avuto io era della LEM e ti dirò che come stazionaria andava molto bene, riuscivi ad andare 1,1 su 40 canali, invece la mini boomerang, quella da 1,5 m, è critica, non si riescono a regolare bene gli stazionari. Io quella avevo, quella da 1,5 m. Della LEM ho avuto la Grand Prix che era buonissima. Tra l'altro non l'ho mai buttata, l'ho rivenduta, l'ha comprata un amico di Paolo Torres, se l'ha ripulita, se l'ha ripiazzata e stava sempre andando. Io adesso comunque di apparati vari ho, quindi partendo dal più piccolo, la Fayette Ares, quello è completamente omologato, completamente, non ho toccato nulla. Poi ho l'FM500S, poi il 548S6, poi fammi pensare, quindi l'Albrecht 5008 che deve ancora tornare dall'assistenza, e poi il Superstar 3006 mi pare che abbiamo finito. Superstar è arrivato. Ah, aspetta che ne ho dimenticato uno, l'AM48XL Monti, dimmi qual è che mi è arrivato. Adesso ti era arrivato poi il coso, come si chiama, ma quello che hai nominato non mi ricordo. L'Albrecht? No, l'altro, il nuovo. Ah, il Superstar, sì, però sai cos'è? Prima volevo prendere il Superstar 3009 NFT, quello che lo contiene per il corporato, no? Però ho preferito risparmiare 50 euro sull'apparato e prendere il cavo, così finalmente la risolviamo una volta per tutte questa storia. E io dico, la risci, ma che tetto c'hai? Che tetto c'hai? Aspetta, sono l'apparato, che sono l'orecchio e sul cuscino non sento bene, ecco, dimmi. Volete un tetto come a tegole oppure a terrazzo? Terrazzo anche bello ampio. Al centro del terrazzo c'è il gabbiotto di Comenti, no, Comenti che presente uscirà il gabbiotto, palo di 6 metri. È molto comodo lavorarci, io ho smontato tutto e mi sono trovato veramente bene. Ho fatto tutto con calma, ho ripulito tutto, ho comprato le viti nuove, ho comprato un bel po' di roba, viti nuove, nastro autoagglomerante per isolare le giunzioni dell'antenna, no, le varie sezioni del faro. Ho preso un po' di vaselina per le vittime, per non fare invecchiare troppo, però mi sa che prendo quello che hai detto tu, il grasso all'icchio. E poi cos'altro ho comprato? Spinotti, cavo, di tutto insomma. Credo di essere al completo. Guarda, se non te ne serve molto di grasso all'icchio, qualche cosa ce l'ho io, Ma non so quanto ne metterò, la verità. Per le viti era più che altro, però ho visto che in 20 anni, anche senza mettere niente, si sono smontate subito le viti. Sono riuscito a svitarle, ho usato lo svitol per sbloccarle. Ma le viti io ho coperto quelli con il gasto vulcanizzante, di modo che non prendano acqua, non si avvicinano nemmeno. Eia. L'unica paura che ho è fare TVI comunque. Se non faccio TVI, bene. Se faccio TVI voglio comprare un filtro che ho visto su internet, che praticamente ha 5 cavità, costa sui 25 euro. È molto ben fatto, non è come quello della ZG, che è un giocattolo. Questo ha 5 cavità e quindi filtra molto. E non costa nemmeno tanto. Non valgono nulla. Allora, se tu non ne vuoi fare il TVI, basta che metti l'antenna più alta di quelle della TV, e poi adesso è difficile fare il TVI, mi sembra più sfigato, perché con la nuova frequenza TVI non ne fai, è difficile. Beh sì, col digitale terrestre spero che sia migliorata la situazione. Magari sono più selettivi, questi apparecchi sono digitali, cioè ricevono il digitale, speriamo bene. E comunque l'antenna, sì, ti confermo, risulta più alta di tutte le altre della TV. Allora va bene. Quello che devi fare delle aggiunture, localizzare va bene. Non so se prende quella ricetta, quella con dei radiali o quella senza di antenna. Senza, la Ringo della LEM, chiamata Ringo LEM. Ah, quindi non è manco 5 ottavi questa? No Giuseppe, perché allora non volevo radiali, assolutamente niente radiali. E volevo una antenna leggerissima, quella pensa che pesa solo 1,8 kg. Infatti. Il materiale è molto fino, si bicia subito. Speriamo di no. Tanto vento qua, magari 20 forti qua non ce ne sono mai. C'è un po' di maestrale, ma a meno che non venga il tifone che era venuto anni fa, ti ricordi quel tifone che aveva fatto un casino? A me non mi ha fatto nessun danno quello lì. Meno male, allora vuol dire che stava bene. Certo che se viene quello magari l'antenna vola via, magari cade in testa qualcuno in strada. E intanto la gira non fa niente. Allora, io sono dell'opinione, dopo che tolgo questa qua, quando sarà vecchia, se arriverò io a vederla vecchia, perché non si sa mai cosa può succedere, ne metterò una più leggera, anche io. Perché tanto c'ho 9 tiranti, un tubo grosso, l'antenna che è un'e alta, se ne vengono di quei tifoni lì, la gente addirittura a volte ne va buttato giù una direttiva. Addirittura, mamma mia, se la direttiva è grande sembra che ti venga addosso palando. Comunque sia, un'altra cosa, ho pensato anche a quello, se io metto una 5 ottavi, anche leggera, tipo la Energy 5 ottavi della CTN, è lunga 7 metri, e ho paura che un'antenna così lunga, anche se leggera, debba essere tirantata. Io tiranti non ne volevo mettere, quindi l'unica cosa possibile era una mezz'onda, e la mia non è nemmeno troppo lunga. Non c'era altra soluzione, ma va bene anche la mezz'onda della Sirio, per esempio, è un po' più pesante. Andava bene la mezz'onda della CTE, la Energy mezz'onda, ce ne erano varie. Oh, detto tra noi, se io avessi avuto soldi già, mi sarei preso la come si chiama, quella della Solarcon, quella americana, aspetta. Ma le cose 200 non ti ho capito. Ecco, avendo soldi potevo prendere la IMAX 2000, che è una 580, se la puoi lasciare anche senza radiali, però devi tirantare, per forza tiranti di me. Oppure avrei preso la Sirio Guide Master, che praticamente non ha stazionaria per 3 o 4 MHz, proprio c'hai 1 e 1 per 4 MHz. Però mancano i soldi. La materia prima, materia della mammina. La mammina ha detto che se non mi do una regolata mi prende a calci in culo, mi taglia i fondi. Ho buscato un lavoro, tanto prima o poi lo dovrei trovare. Prima o poi. E chi sarebbe un capo, mamma mia. Sì, ci sono delle antenne a pelle di nuova generazione, come la Game Master, e lo stesso non ha radiali, perché mi pare che è una J-Pol, si chiama, J-Pol, cioè c'ha lo stile e poi c'è una specie di buffo, di radiante, interno, e non so come spiegartelo, è presente la J-Pol? No, non ce l'ho presente. Beh, comunque ho capito, praticamente quello che non fa esternamente lo fa internamente. Capo, è così. E poi la Game Master è un'antenna strana, perché non hai un'antenna vera e propria di alluminio di sezione, è un cavo di grossa sezione che tu metti all'interno di questa canna, di queste canne di vetroresina o ABS o cos'è, è come se fosse una canna da pesca, mi filo dentro e poi il corpo in resina o in ABS. E come si fa di poi, là? È una cosa del genere. È come fosse un dipolo verticale, là. Lui però è polso. Io non me ne intendo molto tecnicamente, però sì. E che costa un bel, costano 170 euro. E chi ce li ha 170 euro per l'antenna? Infatti. Ho capito come, là. Io l'ho avuta l'antenna così, pure regalata. Ma vabbè, comunque la Mantova è senza andare di più una signora antenna, sia la 1 sia la 5, la Turbo non la conosco, ma la 1 e la 5 sono molto buone. La Turbo c'è chi dice che come segnale, per dire, Mario Manzo ce l'aveva tutti e due, ce l'aveva prima la 5, poi la cambiata, si è messo la Turbo e ha detto che manca paragone, la 5 prendeva molto di più. È probabile. Comunque la Mantova 1 per eccellenza è stata l'antenna che ha accompagnato i CD per 20 anni, se non di più, se non 30. Qualcuno ha lamentato che le nuove antenne hanno dei materiali più scadenti, tipo gli attacchi dei radiali, tipo, che ne so, i supporti del mollone, piccole cose che però influiscono nella qualità dell'antenna, che dopo vari anni magari si ossidano, si rovinano, si spaccano, capito? Purtroppo anche i materiali delle antenne hanno avuto un leggero calo di qualità, almeno per quanto riguarda quelle, le 5, le turbo, queste antenne nuove, no? Vedi, c'è quella tipo vecchio. Ce l'ho 12 anni io sul tetto. L'ho scesa, l'ho pulita, ho rifatto tutto, ho cambiato le fascette, ho messo in acciaio, ho cambiato la carica interna, tutto quanto. Lucidata, fatta e ripiazzata. Sai qual era l'altra candidata che avrei dovuto prendere al posto della Ringo? Era sempre della Ecoantenne, la Vega 27. Praticamente era una 5 ottavi, era un pochino più corta, un pochino più corta, perché anziché avere tutto stilo aveva un pochino meno stilo, infatti era alta 6 metri mi sembra, e aveva un pochino più di bobina all'interno e costava poco, costava 60 euro come 50 e pesava anche poco, e me la sono fatta scappare per un soffio perché la antenna chiuso e quindi i rivenditori hanno terminato le antenne della Eco e non l'ho potuta comprare. La cosa sarebbe stata sicuramente meglio. Per 50 aveva i radiali, ma appunto era leggera e un po' più corta, sarebbe stata ottimale, ma infatti meglio per me, dovevo agire prima. Ma il tubo quanto è alto il tuo? L'antenna mia. Il tubo. Il palo è 6 metri. E tu con 6 metri di palo non li metti tiranti? No. Ma cos'è il tubo d'acqua? No, negativo. È il classico palo telescopico in 3 sezioni. Vabbè, essendo leggera non dovrebbe succedere nulla, ma è sempre meglio tirantarla. Ma cosa ci vuole? Perché non li puoi mettere i tiranti, spero? Perché sulla parte di terrazzo dove ho messo l'antenna io, cioè dove c'era la vecchia, non mi voglio allargare più di tanto mettendo tiranti, capito? Non vorrei che mi facesse lo storico. È casa vostra lì? Beh, la casa sì, però i terrazzi, sono due terrazzi, non sono dei due proprietari, sono proprio di proprietà di condomini che vivono qua, cioè non sono condominiali di tutti, sono di proprietà loro. Naturalmente hai la servitù di passaggio, cioè lui ha detto tranquillamente di mettere l'antenna, no? Però non vorrei approfittarne. Ecco. No, perché qua è diverso. Il terrazzo è condominiale e ogni parte ha... ogni condominio c'è la sua parte. Io nella mia parte faccio ciò che mi pare e gli altri fanno ciò che gli pare la loro parte, capito? Ho capito. Invece noi secoli avevamo di terrazzo, avevamo il terrazzo del numero di Viale Mameli 51, era nostro, e poi due portoni più in là avevamo anche il terrazzo proprio proprietario di Viale Mameli 55, quello era nostro, potevamo fare quello che volevamo, però qua invece no, qua è proprietà di altri. Ma non lo so, se tu sei proprietario ti spetta sempre un pezzo, sapevo anche se l'abbiano comprato dal condominio. Sì, sì, l'hanno comprato, è proprio di loro uso esclusivo, tranne il diritto di antenna, che è quello che lo riconosco, capito? Quindi loro accedono, ma c'hanno la porta che va sul terrazzo, che cosa? Sì, praticamente vai all'ultimo piano del palazzo e ci sono due porte, una a destra e una a sinistra. Io devo andare in quella a destra, sì, a destra. Ho capito, un attimo là. Io ho fatto anche una ripresa della... ho portato la telecamera, non l'ultima volta, ho fatto una ripresa della vista che c'è là. Dal terrazzo, praticamente io sono tutto libero da sud fino, aspetta fammi pensare, nord è un pochino coperto, e praticamente ti dico dove sono coperto, io sono coperto da nord diciamo a sud-ovest, no a sud-est scusa, da nord a sud-est sono coperto, invece da sud-est fino a nord ovest sono tutto aperto, proprio c'è l'orizzonte, no? Vedi le montagne in fondo, per esempio Alghero è tutto aperto, Tintino, Porto Torres è tutto aperto, poi al sud anche. Te l'avrei anche fatto vedere il video, però non so come mandarti il link. Basta che lo mandi apposta. però non so come l'indirizzo, vabbè te lo farò avere comunque l'indirizzo del video su YouTube, così ti fai un'idea di quello che vedo dal terrazzo. Comunque per il discorso del palo, anche a me è venuto lo scrupolo, perché ti premetto una cosa prima, questa antenna rispetto a quelle della Eco, ti spiego, quelle della Eco, le Ringo, sono alte circa 5 metri e mezzo, no? E tutto stilo e poca bobina, cioè la bobina è molto piccola di diametro. Questa antenna che ho preso io invece l'hanno modificata la LEM, gli hanno fatto lo stilo più corto e molta molta bobina. E pensa che addirittura lo stilo per tararla sui canali normali, lo stilo l'ho fatto lungo dall'isolatore alla punta 4,10 m, più il tubicino che c'è alla base, totale, in totale questa antenna è lunga 4,34 m. Eppure pur sempre una mezz'onda, praticamente hanno messo meno stilo e più bobina, però è sempre una mezz'onda elettricamente, capito? Sì, io non faccio più carica, ho capito. Vabbè, dai. Ma tu l'hai già piantata quindi l'antenna? No, negativo. Ho smontato solo il vecchio palo e le vecchie antenne. Quindi ti stavo dicendo, io stavo pensando che 6 metri di palo più 10 metri, più 4 metri di antenna è un bel alto, mi stava venendo anche a me lo scrupolo se ci vogliono i tiranti o no. Allora stavo quasi pensando di fare solo 4 metri di palo e 4 metri di antenna, cioè tenerla un po' più bassa, e non so cosa fare, non so cosa decidere. Ma lascialo come il palo che reggerà l'antenna, non è mantenuta. Se il palo lo regge, certo, se fosse stato un palo d'acqua sarebbe stata la cosa migliore. Ma visto che è quello lì, io per dire l'ho piazzata così l'antenna, ho messo anche io un tubo così, un palo di quelli, diciamo, telescopici. Era da 8 metri, ne ho tirato solo su 5 e 3 li ho lasciati dentro per rinforzarlo. E poi gli ho messo in punta un palo d'acqua. Ho capito, sì, e come peso, com'è? Più pesante del telescopico o meno pesante? Il palo d'acqua è molto più pesante, però gli ho messo anche i nuovi tiranti, gli ho messo i tiranti sopra e sotto, capito? Di modo che chi lavora sono i tiranti, perché se tu i tiranti si invincia i simbati. Ho capito, quindi deciderò, sì, l'antenna è leggerissima, pensa che quando la piatti la puoi tenere con una sola mano dritta. Infatti il vantaggio di quello è quello che è leggera, è alluminio leggerissimo. E conta che le sezioni entrano dentro una nell'altra abbastanza in fondo, perché sono lunghe le canne che la compongono, però si infila abbastanza dentro l'uno nell'altro, quindi contribuisce a farle un po' più rigide, diciamo, più resistenti. Ma vediamo come sarà. Comunque il punto debole di quell'antenna, sai qual è? L'isolatore, cioè quell'anello di plastica nera che separa lo stilo dalla base. Ho capito. Quello gli basta che tu glielo vulcanizzi se proprio ha problemi. Io praticamente ho preso non il vulcanizzante, che è duro più da togliere, da cambiare, ho comprato l'autoagglomerante che fa praticamente un mallotto tutt'uno sigillato e non passa acqua. No, sempre quello io ho usato, non lo so, non lo conosco quello che stai usando. Cioè, è meglio che si faccia duro, poi basta prendere la tagliolina e si toglie, non è che, però dura nel tempo, mentre invece quello che hai preso tu si dura. Sì, dura. Ha il vantaggio che dura ma è più morbido da togliere, basta un taglierino, gli fai un'incisione unica e lo apri e lo togli, così almeno si evita troppo le stazionarie, no, con la pioggia, quella roba lì. Guarda, non vedo l'ora di avere l'antenna su, perché diciamo che anche il coronamento, non dico un sogno, ma conta che io da tutto questo tempo sono sempre in macchina, un modulo in macchina, poi un modulo volantellino, ed è un disagio enorme. Non vi 5 sia a casa, la di 5 a bomba, quindi non ti mettere il problema che qua non è bene. Figurati con l'antenna sul tetto, quindi sono, quanti piani sono? Cioè, rialzato, sono 4 piani di palazzo, 5 secondi di terrazzo, e più il palo è 6 metri, conta che il palo è sollevato da terra di mezzo metro anzi, quindi è come se fossero 6 metri e mezzo di palo. E già va bene, quella zona è buona quella lì. Peccato che sia coperto da nord a sud-est, peccato, perché ci sono dei palazzi più alti, comunque vabbè, conta che la propagazione poi fa miracoli. Se li sento in macchina, figurati con l'antenna su. Fidati di chi conosci, è una buona zona, vedrai che parli bene con tutti. Comunque sai perché mi interessava avere lo switching, quello che ho detto io, il Roxel M-Fa, perché stavo pensando di riacquistare quelle in aretto che avevo regalato a Leoncino. Ma prenditi direttamente, come si chiama, 747 della CTM, vai alla GBC e te lo compri, ce l'hai già lì. Ma costa di più. Io sai quanto lo pago questo RM203, si chiama RM KL203, lo pago 40 euro più 10 di spedizione, tra l'altro costa di più. Alla fine dei conti è la stessa cosa. No, lo so, l'altro c'ha i finali a MOSFET. Ehi, anche questo. Questo è abbastanza nuovo di generazione. Vedete quello, boh. Il CT è sempre andato bene. Sì, è vero, è vero. Ce l'ho sul catalogo Midra. L'altro, diciamo, a me avrà dato problemi, però perché andava ritoccato, capito? Bisognava fare quella piccola taratura che Alessio ha fatto che Antonello ha fatto a Giuseppe dopo il canato per, perché la spesa è irrisoria, praticamente potrei avere 100 watt da casa, poi non sono 100, fai che siano 80, però 80 puliti è meglio che niente. Vabbè, se sembra di dubbio, o io non ne ho. Ce l'ha vero, ma ho venuto tutto, non voglio più sapere i lineari. Vabbè, i tuoi apparati però sono anche più potenti, no? Non hanno bisogno nemmeno di lineare. Vabbè, quello sì. E che cosa ti è rimasto di apparati? Tu avevi una volta il S9, no? E che fine ha fatto? Allora, io di S9 ne ho avuto due, li ho tutti e due venduti. Ho preso il 980 che era il modello più nuovo dell'S9, ce l'ho ancora, niente, ce l'ho ancora, lo uso poco ma ce l'ho. Ma adesso cosa stai usando? Quello lì? Negativo, adesso non è quello lì, questo qua è un capo. Ah, ho capito, fisce bene, fisce bene, sembra un normale apparato con un bel microfono da tavola. Sì, perché sono in basso contento. Ok, dai, beh, facciamo così, mezzanotte e 25, dai, vado a mangiare, pensa a questa era qua, tu sono in bagno che me la sto facendo addosso la pipì. Però, ma non digerisci così, non mangiare mai così tardi, beviti una tazza di latte ma non fare altro perché se poi non digerisci di notte. Lo so, no, ma io già digerisco, poi per digerire meglio mi prendo un bicchierino di gin. Ma non vedi tu, dai, buonanotte, ci sentiamo. Ok, buonanotte già, alla prossima. Ciao, ciao. Cosa vuoi? Cosa non c'è? A parlare. Ma che non vanno a dormire. Vabbè, buonanotte a tutti. A mangiare, vai, buonanotte. Allora delle streghe va a mangiare. Ma tu hai parlato? No. Allora c'è qualcun altro? No, sono andato, stavo andando in cucina, ho sentito una voce. E non senti che c'è quel bip? No, non me ne sono accorto. Ehi, tutti ascoltoni sono, però non entrano mai. Maledizione. Cosa vuoi fare? Io entra, signore. Ciao. Ciao, che? Chiama. Che? Non lo sento adesso. Cioè, aspetta che abbasso lo squelch. Poi va a salutare Marco Condor, se ti conosci. Avanti, avanti, l'amico. Buonanotte, eh? Ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, ok. Buonanotte. Quale ti è effettivo, ora? Sto spegnendo adesso. Ciao, ciao.